lui arriveremo lo stesso, capito? Gli scherzi, le onde magnetiche, le onde radiofoniche vanno un po' dappertutto, poi bisogna avere, se c'è propagazione, se c'è quello, se c'è quell'altro, bisogna vedere se per tutto, però una bella prova, come per dire, prendiamo due baracchini uguali, per togliersene un gusto, perché ce ne siamo tolti tanti di gusti, ma per togliersene un gusto. Per dire, non sei tanto esigente, sei anche implicito che sia regolare, regolare nel senso che ci abbia arrivati suoi dal baracchino, lo colleghi all'antenna, gli metti un microfono, lo colleghi, basta, finito, e poi vedi se dove arrivi. Allora quelli uno dice, la tua posizione è meglio della mia, capito? Perché Franchetto sembra così, con un pezzo di luccio, scorta anche quelli piccolini e piccolini rientrando da Cagliari. Ma io ho saputo, Franchetto, se ci vivessi, la posizione sua è più favorevole della mia per le zone, diciamo, verso Roma, come quelle zone lì, perché lui è aperto, non è ostacolo, al contrario mio, lui non va nulla, c'è tutto quel pezzo dell'ipodromo, c'è quel canalone e lui rientra a pieno. Guarda se si mette un'antenna discreta e un apparato più serio, eh? Anche da Franco. E lei sta per me. Chi è Domenico? Voi ve ne muovi, Gaggi, il più forte sono io qua. Se dico voi, Gaggi, il più forte sono io qua. Ah, per me, sono accesso. Lo passo, lo passo. Guardate che c'è stato un mezzo di Bracco. Avanti Bracco, amico, e facciamolo entrare. Un attimino, scusate, avanti Bracco. Oh, ciao, Robè. Qui è Bracco che chiacchiera, diciamo. Là. L'hai buscato quel numero di pasta che ti avevo chiesto? Sì, ma dopo ti chiamo e te lo do. C'è un amico, poco fa c'era Antonello, Antonello ancora ci sei, buon pugno. Marco, scusate, non c'era Antonello, che c'è la possibilità di farci avere, me lo porta a Mari e da me in officina un bimbanda che fa le V e le U, c'hai tu, c'ha tutte le funzioni per fare quello che volevi tu, 100 euro, della Kenwood. A me sta dicendo? Sì, sì, a te, insomma. Non lo so, ma io lo voglio vedere però, eh. Certo, ma lo vediamo e poi se ti piace lo guidi, se no glielo restituiamo. Beh, l'importante è che ci abbia tutte le caratteristiche per entrare nei ponti che ti ho detto, eh. E cioè, adesso non ce l'ho qua presente, diciamo, le caratteristiche che devo avere. Di quale anno è? Che marca è? Mi devi dire pure. È un apparato recente, e me da carino lo già riconosce, è un apparato della Kenwood, quindi un apparato nuovo, e fa le V e le U, fa tutti, c'ha tutte le possibilità di collegarsi ai punti, perché c'ha anche i turni, c'ha la tastiera numerica, che puoi entrare e puoi fare digitare la frequenza direttamente, per cui puoi fare quello che vuoi, è un apparato super collaborato, adesso mi dà, me lo porta a me oppure mi dà i dati e lo prendo da internet e magari eventualmente te lo faccio vedere su internet. Ma non c'è bisogno, guarda, vengo da te, fatelo dare, no, è semplicissimo. Quando è che puoi averlo? No, non c'è la luce, lo devo far vedere da questa persona che lo sta vendendo. Quando ce l'ho, ti chiamo e te lo comunico, non c'è problema. Comunque io adesso direi di fare entrare un attimino il Domenico che è da lontano che sta arrivando, sta andando anzi, che è un po' più lontano e poi facciamo girare a tutti. Avanti Domenico, con la buonasera. Forse è entrato nella buca. Riprendi allora Natalino e poi facciamo girare. Ma ciao Giova, buonasera. Però bisogna vedere se quello che sto dicendo io, quello che sto dicendo io ha tutte le possibilità che sta cercando Giovanni. Se è il TH78, quello della Kenwood, e vedi sia le V che le U nel display, tutti e due c'è un doppio ascolto, per tutte e due le bande, capito? Chiunque entri, sia le V che le U lo senti. Bisogna vedere se è quello. Se quello lì ce ne ha le caratteristiche che sta cercando Giovanni, capito? Bisogna vedere se è quello lì, perché lì se non lo sapeva sarà quello. Io ho tirato a indovinare se è quello. Allora, riepiloghiamo allora, c'è Natalino, Giovanni, Bracco, Mario, poi chi c'è? Avanti chi vuole entrare, così riepiloghiamo. Avanti chi c'era? Ci sono anch'io. Gianni, doppio room, vediamo se Domenico per caso ci ascolta, forse è entrato in buca perché lo sento per un attimo, ma avanti Domenico se ci sei, batti un colpo. Io sono qua. segnale. Qua sta arrivando 9.50 segnale quasi fondo scala. Vediamo Gianni che è un po' più lontano e poi facciamo girare agli altri. E parla Marco per Gianni, poi. Ok, attenzione, adesso faccio ascolto solo. Lo ricevo sì, ma molto basso, un segnale diciamo di 3 al massimo, no? Mi meraviglia che lo riceva così basso perché c'è un'antenna come si deve. Magari dimmi tu da dove sta modulando e poi io faccio ascolto. No, quello che era più basso era Domenico, non era Gianni. Gianni già arriva forte, te lo rilancio adesso a Gianni, così ti fai un confronto anche con lui. Gianni, ti avanti per poi Bracco. Ciao Bracco, ciao a tutti gli altri amici. Non lo so, non mi stai ascoltando Bracco, tu mi arrivi con Santiago di nuovo, dai. Oh, mettete a te, ti ascolto benissimo, 9.5+20 addirittura, il tuo immaginare. Va bene, l'altro amico è che non riuscirò a copiare, comunque, non so da dove sta modulando. Robby, riprendi il micro tu e io faccio ascolto, ciao. Via, ci risentiamo un po', ti comunico col numero di telefono. Avanti Domenico, dove sei arrivato? Vicino alla cementeria. Vediamo Mario sicuramente lo ascolta benissimo. Avanti Mario. Ciao Domenico, buonasera, ti ho sentito. Trucca, là, ti stai avvicinando da Brisi piano piano, ti sentiamo meglio. Lui forse non è aperto, lui c'ha dei palazzi intorno a me, c'ha la mantova, di antenna, i cani maresi cioè, saranno molto ricchi, l'apparato di vecchia generazione però già si fa sentire. Vorrei anche io fare i confronti, considerando che lui forse è un po' forse, è un po' più in alto di me anche se ci ha parlato intorno. Bracco, avanti di nuovo, prende Mario così ti dà un rapporto di segnale, lui si trova dietro una limaletta. Non ho capito la zona comunque, in zona, mi hai detto Mario il nativo, ok, rilancio il micro, vai. Comunque qui si sente la novella di 5, là, zona diciamo così latta dolce, a fianco. Ti dicevo benissimo, ci sono problemi anche se sono un po' lontano. Si vede che anche tu c'è un'ottima antenna, la mia è un'antenna matta, ma qui c'è 20 anni. Vedevo che non funzionasse più, ho ripreso l'altro giorno modulare, sia nel diciamo nell'HF che in queste frequenze qua. Mi hanno detto funziona bene sia nell'uno che nell'altro, ma devo essere sincero, però proprio al 100% non sono sicuro che sia una mantova. È una antenna altissima, e chissà se dovessi stare sul tetto se c'è ancora la marca, se c'è scritto qualcosa proprio per essere certo. So che è un'antenna ottima, perché altre antenne che avevo messo altre volte a quest'ora sarebbero stati ammessi. A Torralba, ad esempio, dove c'è la stazione, se ne sono rotti 5-6 addirittura col vento. Questa invece resiste anche se è molto in alto. Ok, Robbe, riprendi tu se vuoi oppure Mario stesso, dai. No, non ce l'ha che Falchetto, dai, Falchetto. Ecco, mano di Giuseppe, buonasera. Buonasera a tutti voi, Mario, Doppio Room, e Roberto di nuovo, ho sentito poco fa, l'amico che stava parlando poco fa, a dire la verità non l'ho riconosciuto, al birichino, e niente, dai, riprendi tu, Doppio Room. Caprai, una buonasera cordiale anche a te, dai. C'è Mario, Roberto, io, c'è anche Domenico che sta andando a Olbia, vai per chi vuoi. Sono rientrato, C'è anche Natalia. K di Rosmetro, dai Mario, avanti. Sì, KK, ciao Giuseppe, ben entrato. Anche poco fa avevi fatto il passaggio e poi si è sparito, credevamo che ti era mancata la luce. E invece io già lo so dove vedi, davvero. Oh Bracco, comunque la mia c'è 19 anni l'antenna sopra il tetto, senza radiali però ancora funge. KK, non ti mettere problemi per quello lì, e sicuramente so anche in che punto sei più o meno là, perché lì c'è un altro radioamatore nelle tue coordinate. Ma non è il punto dove sono, diciamo, quasi tifo di Roberto un po', prossimo alle piscine in poche parole. Ok ragazzi, io vi lascio per il momento e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao. Bracco, buon quarantì, dai. Tappa di positivo Mario, ciao Bracco, buon Querriti e ci sentiamo alle prossime. Avanti Natalino. Natalino, ripeto, Mario, hai tendevi un po' a strappare, se l'ultimo passaggio. A me stavi dicendo, io per lui. Kappa, stavi tenendo un po' a strappare, riusciva con la radio un po' gracchiando. Mi sono girato e ho tirato un po' il microfono, perché adesso in questo momento ce l'ho in mano, perché se lo metto sopra tutti quanti mi dicono che si sente una piccola alternata dell'alimentatore dell'apparato stesso, Gappa. Ia, adesso ti sto scendendo un po'. Natalino! Oh, buonasera a tutti. Avanti Falchetto, buonasera. Mia Falchetto qua, ciao. Ah, Vulcano, mi sono sbagliato. Sbagliare il prete, dice la messa, non posso sbagliare io. Sì, stamattina qualcuno ha detto tutto, si è incavolato. lì a Campeda c'è stato uno, c'è stato Costanzo e ha spento il baracchino perché si è incavolato. E non riuscivi e tu non lo facevi parlare, stava parlando con un altro e tu lo coprivi. E non riusciva a parlare con l'altro che era a fianco. E allora si è incavolato e ha spento tutto. Ecco. Non è colpa mia, no, caro Vulcano. Tu non sai che io sono piccolo e meno, ma mi faccio sentire. Fare il positivo, Mario, stai tranquillo che se oggi l'ha spento, domani con tutta tranquillità lo riaccenderà il baracco, perché sul 5 si può modulare tranquillamente, Mario. Mario, lo so che facciamo, dopo che sono andati via e sono arrivati da Brissi, noi ce ne spostiamo sul 21, se no li disturbiamo, ed è anche giusto perché loro lo usano per lavoro, capito, Mario? Sono entrato comunque. No, no, non è così, Natali, che noi parliamo con tutti, del più e del meno ci fa compagnia, capito? Anzi, almeno sta entrando Mario la mattina presto e Falchetto che ci fa un po' di compagnia. E anch'io ci sono. E va bene. Ma stavo dicendo, come voi passate Brissi lì, se noi ci spostiamo sul 21 possiamo fare il nostro QSM e non disturbiamo nessuno, capito? Stavo dicendo quello lì e basta. No, è successo che io stavo parlando con Mario e poi a un certo punto quello cercava di parlare, non riuscivano a parlare lo vicino perché parlavo io con Mario, capito? Io il coprivo, hai capito? E Mario arrivava lì a bomba, lì a Campeda, capito? Mario arriva forte lì, arriva fortissimo. E niente, la si è incavolato e poi ha ripreso, l'ha riacceso Auristano e l'ha riacceso lì. Gappa, gappa, mi fa piacere che almeno sino a Campeda e la visita di me mi ascoltiate bene, pure il resto non mi interessa anche perché voi giustamente più vi allontanate non è che mi possiamo ascoltare bene. Però io a te, la verità, sino a quando arrivi a Lidia di Marcomere, anche oltre, ti ascoltiamo bene, perfetto. Non ti dico come ti fossi seduto vicino a me, perché ci sono tante modulazioni che parlano e io le ascolto comunque. Però mi fa piacere che sino lì vi accompagno bene e voi mi ascoltiate bene, come io ascolto a lui. Kappa kappa. E così se non sentate avete visto la voce di Roberto, ma anche Roberto c'è il radio. Sì, sono entrato, ci sono un po', da 1 ora e 43 minuti di frequenza, ma non è sbagliata. E dove ho chiamato al telefono un attimino, sono andato a rispondere. Comunque riepiloghiamo, ho sentito un attimino Luigi, buonasera Luigi, poi c'è Mario, c'era Gianni, non so se sia rientrato dalla macchina, non so se ci sia, ricordiamoci gli altri, Natalino, vediamo se mi sono dimenticato qualche un altro, vediamo un po', Mario, riepiloga tu da. C'è anche Giuseppe ed è rientrato anche Falchetto. Va bene, siccome Falchetto era il più assente, lo rilanciamo a lui, intanto lui ce l'ha passata lì dalla scossa al microfono. Avanti Falchetto. Ti ha fregato anche questa volta. Sono Luigi 2, Falchetto. Comunque facciamo per la Giuseppe, ma Giuseppe che poco fa abbiamo chiamato un paio di volte e non ci vede. Ehi tata, vabbè no, ho dovuto staccare perché mi è arrivata gente all'improvviso e niente, non potevo modulare. Sono riuscito adesso a liberarmi e niente, sono di nuovo qui insieme a voi. Senti un pochino questa radio se è un tantino migliore a quella di poco fa, vabbè. Questa è un po' più naturale, mi piace più questa, da parte mia questa è molto migliore, poi i gusti sono gusti, dico, da me piace più questa, livello va benissimo, tonalità, le giuste tonalità, pochettino occupa di acuti, però va più che bene, niente da recepire. Anda bene Meda, avanti il doppio room. Venga Giuseppe, ti devo far sentire per quella cosa, ti stavo cercando e non ti ho sentito poco fa. Sì, io c'ero anche quando sei partito da Porto Torres, però era un anderibini di portanti, non c'era manco lo spazio per poter entrare, già, non è un problema. Dica, farò una l'altro giorno. Cappa, io niente, ho provato a vedere un pochino e sono quattro i figli. Quattro sono. Allora se sono quattro, guarda, basta che tu metti quelli di sopra sotto e sicuramente ti va. Già fatto, se inverto quelli di sopra sotto mi manca la radio. Sto qua. Chiedo il Zecco se che devo salire su a casa, che ero di passaggio, dai, sono entrato così a salutare che ero di passaggio. Dai, fatemi buon proseguo, buon tutti, buon proseguo della serata, dai, a tutti. Che sto di fretta, mi sta chiamando mia moglie, che se non mi si rappresenta la pasta. Dai, buon proseguo a tutti quanti, dai, rilancio Roberto e poi a ruota, che io devo andare a cenare. Non ti vedi, oggi ti voglio chiedere un'informazione. Ne ho sentito una per nuova, mia, ogni tanto c'è una novità. Stanno vendendo un R48, 450 euro, con modifica al comando vocale. Mai sentito niente? Comando vocale... No, col telecomando, Cioè, col telecomando, sì. No, c'è il discorso della calamita, eccetera, eccetera, questo attivi la modifica con una voce, con un suono, eh? No, non l'ho mai sentito, c'è col pulsantino che noi ci abbiamo, invece sembra uguale, invece tu adesso non ci sono la spia che si accende nelle stazionarie nell'area 48, lì sembra che ci sia la lampadina, invece tu lo schiacci e attivi tutte quante le funzioni, capito? Come schiacci, qui si accendono le luci blu, si accende tutto, doppio modulatore, ecco, tutto, queste cose varie. E qualcuno si accende diversamente, schiacci la portante, premi la portante, lo metti sul 40, vai sul 40 e spegni, poi riaccendi, schiacci la, schiacci la portante e accendi, e si attiva così, molti. In Sicilia lo fanno, l'ho visto proprio oggi su internet, si raccusa, non so che cazzo lo fanno, 450 euro lo vende questo tipo, usato con l'ambra e l'apparato, non è proprio un modulatore, dice che non ce n'è bisogno, però c'ha tutte queste funzioni, dice l'ultima modifica della cosa, le modifiche se attiva la comando vocale, c'è scritto. È positivo, c'hanno un'altra specie di scheletta, li fa anche coso, Dario li fa così, e fanno bene, Dario che però è a Mantova, Dario, non è in Sicilia, e li fa così Dario, capito, lo conosco personalmente anche, e fa degli apparati, dai, e allora chi fa degli apparati li conosco tutti io, li conosco perché ce l'hanno degli amici miei, e siccome mi pare che avevo detto tempo fa che io vado a questi raduni che fanno, mi pare che l'avevo detto, no? E ho avuto modo di conoscere personalmente tutti i famosi, questi famosi che fanno, baracchini, sia 48, sia Magno, sia quelle che quell'altro brutto, quello che è 8001, e li conosco tutti, dai, più o meno li conosco, un parecchi li conosco di persona proprio, capito? E niente, questo vocale ancora non l'avevo sentito, a dire la verità. Ok, ciao, lui, ben sentito, buona carica, buon tutto e buona giornata, domani non abbiamo modo di sentirci, facciamo girare, mettiamo la Gianni e poi tutti gli altri, avanti Gianni. Caffè Luigi, buona carica, buon corretti e buona giornata per domani, avanti Mario. Ciao Volca, buona carica, buon tutto e ce la risolviamo domani mattina, ciao. Positivo, alle 5 domani mattina Mario, alle 5 puntuali, ti raccomando, Gianni Gipone è rientrato, non so, ha fatto panne, poco fa l'ho sentito sul 5, l'ho sentito sul 5 quando prima di entrare a salutare a voi che stava rientrando, è rimasto in panne, ma com'è mi sembra, è rientrato adesso. Gappa, d'accordo, che ci risentiamo tutti quanti domani mattina. Buon carica, buon tutto e salute a quelle, allora ce la risentiamo alle prossime. A tutti, ciao Giuseppe, se ci sei, Giuseppe. Cappa Vulcano, buona carica e buon tutto, dai, buon trabacco per domani, ci sentiamo presto. Ciao Vulcano. Ciao, non ci vuole, una buona cena ci vuole, dai. Ho mangiato un panino con Wurzel patatine, capito? Una cosa che non mangio mai a casa, Giuseppe non ne mangio mai, oggi ho mangiato Giuseppe patatine, grazie. La Samui dove sei tu, Giuseppe? Cappa di positivo, Vocal, sbizzarrisciti adesso, guarda, se sali e sono spaghetti, prendi cucchiaio e forchetta e vacci dentro alla grande. Ciao, mica, poi la veda del 2, comunque dai, si è passato tutto Natale. Troppo mosse. Cava. C'è stato un cava con l'ecco, lo facciamo venire avanti. Giuseppe, passa a canale 40 un attimo. Cappa. Di chi è avanti? Avanti, adesso non ho capito, sarà Pier Paolo o sarà Antonio. Va bene, uno dei due, avanti, dai, chi è stato? Sparito. Ma c'è il pacchetto, fatti ancora ci sono. Sarà deconuto e poi fuggi. C'è un colello, è fuggito, devo chiedere le cose, è fuggito. Ma comunque hai visto? Vabbè. Anche i colleghi si sono arrivati perché sentivano a me con Vulcano. Guarda che te ne buttano davanti alla pallettura, tu sei buffonelli dal fuoco. Micidiale con la previsione di meteo.it. Ecco, sapere, luglio, stavo mangiando e stavo guardando il telegiornale, e dopo il telegiornale ha dato le previsioni del tempo e per domani ha messo sole. Allora, così che poi quello che ha detto la televisione, molte volte si sbaglia, non è quello il problema. K di positivo, riprendi Massimiliano. Sono tornato, anch'io. Buonasera allora a tutti e due. Io sono entrato e voi non ce l'avete, la vostra assenza, vi stiamo facendo la chiacchierata con Mario e Roberto. Ok, la riprendete chi volete. Buonasera carissimo Bulldozer, ben sentito, ben trovato e uno per voi qui come sempre. Oggi come è stata Bruno? Oggi è stata, diciamo che nonostante tutto, dopo la mattinata di pioggia un pochino si è sistemata, siete riusciti a combinare qualcosa? Ma la verità non ho combinato proprio niente. Oggi me l'ha giovato 4-5. Addirittura. Di cagati. Fate figurati tu. Ne parla bene, maleducato, cazzo, così ti ho insegnato io. Vai tu, cuore. Ti faccio schiattare, Massimiliano. La parola, mi hai fatto anche sbagliare strada, la massa che te ne scende. Quindi non ti ha giocato più bene un viso, ma buro. Stiamo parlando con te e mi hai fatto sbagliare strada, adesso ho visto, tutto sui soli che devo fare. Guarda, vi immagini questo Massimiliano, ragazzi, io non ne posso dare né casa né lana, dice, pure di strada e taglia. Massimiliano, dove ti sei impergolato? Qua le cuce sono, mi sta facendo entrare mia cognata. Attenzione, ho parlato con Natalino e ti può dare conferma, ho parlato con Bombo, ho parlato con diversi colleghi, però ero sul 5 Mario, e tutto il giorno ero qui, Sassari e dintorni, K e ricappa. Ricappa, no, io non ero a Sassari, da a Sassari ero la mattina. Ho fatto un paio di commissioni e poi alle 10 sono partito per Tempio e niente, sono ritornato alla 1. Che cappa di positivo, dai, e già ti stai dando da fare anche tu Mario, e l'altro giorno a Coso eri a Ottana, oggi anzi a Ottana, in pianura diciamo, dai, oggi eri in montagna, l'acqua l'hai portata giù da Tempio Mario. No, guarda, si stava molto bene, era un bel sole caldo, allora, si stava ben bene, l'aria era appena freddina, ma niente di particolare. Mario, lì fa bene quell'aria lì, bella frizzantina, e fa bene ai polmoni l'aria di Tempio, essendo così in alto si respira a pieni polmoni. Nell'acqua ai reni. K di positivo. No, io sono andato, ho fatto un carico di termosifoni, di quelli che pesano oltre 100 kg l'uno. E niente. E poi siamo rientrati la sera alle 3 e sono andato a scaricarli. Tutto qua. E niente, c'è passata la giornata che ero mi giù. E cappa Mario, quando è così va, diciamo che va più che bene, mannaggia. Ma in che zona li hai caricati? Non voglio sapere proprio la zona esatta, no? Dentro Tempio, fuori, zona industriale. No, no, nel cuore di Tempio, proprio nel cuore, dietro il tribunale, là, non ti dico la zona, comunque dietro il tribunale. Perché se li avevi caricati lì nella zona industriale ti mandavo in una bella fonte d'acqua, Mario, e guarda, solo che quando scendi dal camioncino la vedi, te ne innamori. Qualche volta quando sono delle bugie le riempio lì perché vengo verso il tempio, non salgo neanche al renaggio, anche perché adesso è tutto chiuso e dovresti scendere a piedi. Invece, come entri al tempio, c'è la fonte lì a destra, me ne riempio qualche bottiglia per bagagliaggio. Io invece vado su alla zona industriale, Mario, e tu cerca, se ti capita di che sei o di passaggio o se sai che devi salire a tempio, e ti porti un bel bidone da 20 litri oppure se ne hai due, e quando sei su alla zona industriale e cerchi dove lavorano il granito, lì a fianco c'è questo tubo, Mario, che incanala, mi stavo intreppando, mannaggia la lingua, e l'acqua e viene giù direttamente e lì dall'imbara, ma tu devi vedere che spettacolo, è come buona quell'acqua lì. Esatto, ma la zona industriale di Tempio non è quella che trovi subito come esci dal Tempio per andare verso Calangiano? È K di positivo, Mario, e come superi il coso delle, hai visto che c'è il deposito del coso, l'inceneritore lì dei rifiuti, e appena superi quello lì, subito sulla destra, vai lì e sei arrivato, vai, è proprio quella lì la zona industriale, e trovare quella fonte, guarda, è un gioco. K di positivo, no, io te l'ho detto subito perché orientativamente avevo già capito dove era più o meno. Capo di positivo, ma perché molte volte lì andando verso Calangiano ho visto molte macchine che si fermavano subito dopo la cosa della metà urbana, diciamo così, là, che lì c'è l'inceneritore. Se tu giri lì e prendi proprio lo svincolo, no? Vai giù sino in fondo, trovi il passaggio a livello, cioè passaggio a livello, ci sono delle come dei cancelli, no? Superi qui attraverso i binari, fai 300 metri e te lo trovi proprio sulla destra, bello, hai anche posto per sederti, e ti sto dicendo che è una meraviglia e non c'è da sbagliare. L'inceneritore, ripeto, giri a destra, vai dritto senza girare da nessuna parte e ti trovi due cancelli dove passano le ferrovie delle complementari, attraversi i binari, guardi quella strada lì, sempre dritto, sì, quando non trovi la fonte sulla tua destra. Avanti il break. Buonasera, adesso rientrato. Non avevo fatto il microfono, quindi me ne sono sceso dalla macchina. Detto, già mi perdonerà. Ci mancherebbe Gianni. Non c'è niente da perdonare, guarda. Va tutto perfettamente bene alla grande. E ognuno fa quello che può. Giustamente, se uno sta chiacchierando, per non sovramodulare il coso, se ne scende poi riprende da casa, se ne ha voglia, se poi non ne ha voglia ci riteniamo salutati e via, vuol dire che il nostro corrispondente non può essere a nostra disposizione, KK. Scorso perfetto, parli meglio di un libro stampato, Cavagava, Roberto c'è. Maria è un filosofo, stiamo ascoltando un filosofo di cinesi che fa quel coso. E bella, dimmi. Roberto, ti vuole far sentire Sanetta, come va? Quella è quella specie di camera ecco che c'hai sotto prima. Guarda così. È un po' cupo già. Prova a fare un passaggio più lungo, ora. 1, 2, 3, prova. Già, è buona la radio, però non è eccezionale, ti sento meglio con altre cose. qua cosa merita, lo sai cos'è? Che probabilmente è la stessa persona di che ho parlato, io ho parlato con uno per un malattino ieri già, per una questione fissa, che me lo deve portare. E me l'aveva spedito, me l'ha già spedito. E mi ha detto, no, di Sasso gli ho spedito l'altro giorno, non so, Bugando, e ho venduto a uno di Sassari e un Salelta. Non sarà chi, Fugio? Non lo so. Posso dire solo una cosa, che non ha un graffietto, niente, è perfetto. Il tipo si chiama Daniele ed è di Giulio, un tipo veramente in gamba. È un radiamatore questo qui. No, non lo so, perché a me mi è stato venduto. A me me l'ha venduto l'amico D'Alessio, mi è stato venduto, è quello che tu mi dicevi, guarda che ce n'è uno che stanno vendendo. Sì, sì, già l'ho saputo, ieri ho acceso un attimino, ho sentito il discorso, stavate parlando proprio di questi microfoni qua, avete sentito anche Natalino, ribadisco che lo Ciulio mi piace di più, però questo sinceramente già forse non ti si addice per te. Cosa c'è, quanto di ritorno per caso? No, c'è Alecco e il buco. Già, non è cattiva, però non ti do un voto alto in pagella, dai. Se vuoi un giudizio mio, pure a qualche altro può piacere di più. A me mi piace di più con l'altro microfono, quello che avevi l'altro giorno, così con il Saturn Echo. Con DM1600. Non me lo ricordo, non me la radio, infatti ti avevo fatto i complimenti. Questa, sinceramente, non è cupa già. Rimane un po' chiusa come modulazione, ti mancano un po' di acuti. Tu avresti necessità un po' di acuti, ma lontane riuscite. Ma adesso con Saturn Echo sempre. Sì. Già, non lo so, questi microfoni con altre persone li ho sentiti, li ho sempre vantati, però con te forse non va bene, ma sei sicuro che non ti ha amato, non si è stato male messo qualcosa? Ma no, non è nuovo, non questo, è un microfono, non c'è un grafo, ti sto dicendo, è nuovo, nuovo. Come sto scendo io, va bene. Ma abbastanza bene, anche tu, niente, non è un granché la radio, un po' occupa pure la tua. Se va bene, c'ho pochi soldi, a meno che mi dai qualche pane di pizza, siamo d'accordo. E ti accontento. Comunque, tenete presente, io sto dando delle critiche molto, molto opinione. La radio l'avrebbe voluto un po' di gente, che sentiamo qua in frequenza. La radio è più che buona, però non è eccezionale. Se volete fare il mio modesto parere, poi qualcuno può dire il contrario. La mia è più che buona di radio, e direi che è ottima. Ottima, direi che c'è la griglia, te la metti la pubblicità. K di positivo, Robei, cazzo candela per i minori, così, attiramenti. Ehi, non so se sei più grande o più piccolo, di quanti anni c'è se non sono indiscreto? 47, amico Roberto, 47, siamo già prossimi ai 50, ci siamo quasi. Quindi sei un vecchietto quasi quanto me, io ne ho uno di meno di te, 47 li farò a settembre io, tu li hai già fatti, non so, li devi fare. No, guarda, io il prossimo mese il 3 ne faccio 48, Robè, quindi figurati. Quindi sei già un pochettino più grande di me, dai. Più anziano, vecchiotto, proprio vecchio vecchio, che c'ha quasi il bastone, già, che c'ha 63 anni, così è già. Io 63. Però mi cacchio, non si può guarda già nei amici, guarda, sai cos'è, ma cosa mi piace di già, che non posso fare una battuta subito a prendere come una pugnalata. Ah, ma perché mi pesano, 63 anni mi pesano un po', non per altro. Allora Gianni, io ti dico una cosa, se ti dico una cosa, ti vorresti a 62 anni o 63 anni come adesso, io ci metto la firma. Certo. Oh, Robè. Dimmi, Giuseppe. Figurati che a me, sai quanto me ne hanno dato da 47? Me ne hanno dato 67 lì e c'è Gianni buon testimone. Di cacchio, io adesso ti avrei detto dai 48 ai 50, più o meno l'età che c'hai tu. Gianni Maria è, non lo so, Gianni quanti ne hai tu? Sei già arrivato 48, 49, quanti ne hai? Io ne ho 50. Tu ti porti bene, come, almeno come radio, poi davvero lo stesso. Però in radio ne hai dato anche di meno. Il più vecchio sono io. Buonanotte a tutti. Marco Giorgetto. Ah, ma sai che ti mi pare, vabbè. Ma come arrivi? Se per volte ti sento col microfono, sembra che c'hai 10 anni di più, perché in altri momenti mi arriva l'acqua di 25 anni. Attenzione, c'è stata una super sovramodulazione, non so chi sia, avanti. buonanotte a tutti, ciao. Ciao, Massimilia, tu eri, cacchio, sei entrato come un demolitore, case, hai mezzo coperto tutti qui, eh. A me, cazzo, sono con loro in parcheggio, non lo so, vabbè, non fa niente, ciao, buonanotte. Ciao, Massimilia, ci sentiamo presto, buon QRT e buon tutto, dai. Comunque, buonasera Massimiliano, anche a te da parte mia, buonanotte. Non vedo più 30 da parte mia, infatti hai detto, dove sei sotto casa, giumma. Ciao Massimiliano, alle prossime. Io ancora vivo, l'ho portato via. Ciao Bulldozer. Ciao Massimiliano. Adesso ho provato a regolarla, meglio va? Sì, adesso sì già. L'altro microfono. L'altro microfono. Cappa. Allora questa musica, che cos'è questo? Questo è Broxel. Già, questo va bene, perché questo ti dà quelle tonalità acute che ti mancavano nell'altro. Magari quello lì, se tu lo provi con un apparato, ci avrà un abbinamento eccezionale. Però con questo che sto utilizzando adesso, c'è lo stesso apparato, non lo so, quello lo saprai tu. E va molto meglio questo. No, lo stesso, sempre il Saturn, ecco, Roberto. Sempre col Sassa. Già, questo sei tu, sembri attento a me, niente da dire, è eccellente. Qua ti do pieni punti. Allora, la mia è da buttare via, anche io sono la sorella. La mia di Mario invece è diverso, con Mario vende di più. Sempre con questo apparato, sa pure anche tu. Cappa. Non lo so, io non lo so, dovrà le due con l'apparato. Comunque tu le tonalità acute ce le hai, infatti ti ho fatto il complimento, ho sentito di quei piccoli difettucci di rosi e cose varie e c'era grande anche tu. Considerando che tu c'hai una voce molto più potente di Gianni, però se i acuti rispetto a Gianni c'è più acuti, sarebbe bello fare le prove con lo stesso apparato di Gianni e dare il microfono tuo e provare i due microfoni per vedere se ci sono differenze di qualcosa. Un giorno magari fate la prova e vedete un po', cioè vi prestate i microfoni e fate la prova con lo stesso apparato con due microfoni simili. Abbiamo lo stesso apparato? Sì, ma già, siccome può anche cambiare, è una membrana da microfono a microfono, magari sembrano uguali gli apparati, magari però c'è una membrana magari un po' più consumata, più usata, è sempre una cosa mobile, la membrana del microfono. Così ti rendi conto, riesci a avere con questa membrana, perché tu prendi due apparati uguali, due casse uguali, suonano diversamente una dall'altra, perché c'è sempre qualcosa, però sentendoli che avete due apparati uguali, la musica c'è un bel parecchio, perché Mario ce li ha gli acuti, tu con quello non ne avevi. È il timbro di voce che ha Gianni, dai, non c'entra niente, altrimenti se c'è il parruglio esco come Mario. Natali, non stiamo parlando di timbro di voce, io sto parlando di acuti, Gianni li mancavano, Mario come mai che c'è una voce più grossa ce li ha, spiegamelo. Perché lui l'amplificatore ce l'ha in gola come ce l'ho io. Ti sto dicendo, se parlo io con questa delta è una bomba, la scommessa. Ma io Natali, già mi sta a mare ti devo salire. Però va a fare, va a fare, mi già. Cosa? Fanno adesso va a fare. Aspetta, Natalino li va meglio l'altro. Io non te l'avrei dato, Natalino poi può fare quello che vuole, io non lo darei per niente tanto, cioè per niente, diciamo, potendo dipendere, però per non fare il microfono una volta che ho trovato l'abbinamento non me l'ho fottuto nulla. Se c'è qualcosa di meglio, ma secondo me il tanner è superiore. Lo devo provare sul presidente io, ecco perché mamma. Devo fare l'abbinamento al presidente a vedere se va meglio dell'MBP4, capito? E questo cos'è? Questo è un altro giocatorino, no? Quello nuovo è andato lì. No, ho capito, questo è il Saturn Echo. E perché si sente la ventola adesso? Ah, la ventola dell'alimentatore sotto, perché c'è altra roba accesa. E con che microfono sei? Con quello Shure questo? Sempre quello Shure sono. Perché poco fa questo non lo sentivo. Perché c'ho l'alimentatore switching sotto, qui sotto, e lui se lo becca tutto, va bene, lui se lo sposto un attimo, vedete, e mi amplifica un bel questo, cioè, vedi? Ah, si sente? Adesso forse qualcosa è cambiato, un pochettino si sente comunque. Comunque, riepiloghiamo chi c'era su questo canale Gianni, Natalino, Mario e Giuseppe. Facciamo una chiamata generale di nuovo. Se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprende Giuseppe e poi fa girare. Entra nel canale 21, chi vuole entrare? Avanti. Giuseppe, riprenditela. Ah, diavolo che silenzio che c'è stasera, boh. È una cosa micidiale. Ma comunque dai, va bene così. Pochi, buoni, tranquilli e rilassati, dai. E volevo dire alle buone doppio rome, oggi che cos'è Gianni? Oggi è giovedì. E domani? Venerdì. Tutto il dì? Cavagava. Muy bene, amico doppio rumme, muy bene, venerdì è arrivato, K di positivo e te lo rilancio tutto a te. KK. Giuseppe, ecco. Il microfono se lo vuoi lo prendo. Il mio? No, no, quello, quello a cornetta, Alessandro. No, io sono già in, in rosso, già, già in rosso, guarda, se riuscivo a vendervi il figlio qui, era già una buona cosa, anche se oramai gli devo riattaccare lo spinotto, perché stasera mi sono fatto prendere da due minuti di coso, di, non di euforia, no, di incazzo, ho preso e ne ho dissaltato tutto. Tu devi mettere lo spinotto nudo, lo spinotto senza la cosa, e poi prova di fili sopra, anche se non c'hai, se non c'hai il coso, il testa già si può fare lo stesso. E K di positivo, dai, ho già trovato chi, chi può fare, chi lo può sistemare, quelle, quelle, quel coso di dai, perché io ci stavo perdendo la testa e ti dico la verità, perché non è, non è così semplice, dai, già, quando cominci a vedere i canali che ti ritornano indietro, avanti quando vai con la portante, oppure quando, quando schiacci la portante lo smetterà al posto di andare su, va giù, cioè qualcosa c'è che non va. Ah, vabbè, se lo porti a casa di quella persona già te lo fa tranquillamente. Papà, mi ha mandato il microfono influenzato. Cazzo, abbiamo aspettato per fare questa attacca, ha fatto culo male, vabbè. Dai, non è, non è un problema, dai, non è, non ne drammatizziamo su queste cose, ci sono cose ben, ben più serie nella vita, un microfono si può prendere e arrivati a un certo punto aprile per dire, no, tra virgolette, il coso della spazzatura e via, il male finisce lì, ci sono cose peggiori Gianni nella vita, dai, una tremendanza. Gianni, cava, stavo guardando, in questi giorni non avevo tanto qua a prendere, stavo vendendo un Superstar 3009 dentro la scatola, mi due mesi di vita, c'è tutta la, la scatola con cielo, neanche sapevo che fosse in produzione, con, non credo che sia omologato perché c'ha sei bande, questo baracchino nuovo, proprio fiammante, 90 euro, non so se lo conosci, quello argentato, qua c'è la banda laterale, c'ha tutto, tranne vabbè frequenzi, ma bello quello del baracchino, sembra antico come linea, se tu lo vedi ancora dentro la busta con i cavi su originali di alimentazione e tutto, 90 euro. Vabbè. 2009 adesso vabbè, l'hanno fatto con frequenzimetro, tutto blu, costa 250 euro, l'ho visto su internet. Questo se tu lo vedi già, è nuovo, noi infatti ho detto, ma come cazzo, trovi così butto la tale comunque, sembra un cielo la negozio, infatti dice due mesi, poi ci sono tutte le altre fotografie di questo apparato, c'è la scatola con la busta lui dentro, con tutti i fili, le istruzioni eccetera eccetera, e poi stanno vendendo uno come il mio, vendendo, però questo non te lo spedisce, e con la cartella in base, ti ricordi quella che mi ha detto tu, della Intec, il 497 come quello che c'ho io, 150 euro, quello va a fare, lo stesso con le scatole originali, tutto quanto imballato, però ecco, sono consegne a mano, ti danno orario in cui puoi andare, chi trova deve essere uno scemo, non mi ricordo se è Bologna o dove, te lo consegna dall'una e mezza alle tre, in questa via all'incrocio di Rosso Gugando, tutti i giorni, lunedì, mercoledì e Rosso Gugando, deve essere siamo la legale, cioè non spedisco, ma rispondo solo via email. E vai là a prendertelo allora. 9,250 euro, abuso. Non ho capito ancora cosa hai detto, scusa. Perché io c'ho il 2009 e la cosa si muove 1.250 euro, ho detto. Quindi dice che un apparecchio vivo sta avendo 90 euro, se qualcuno viene difettoso, non c'è qualche problema. Perché non è possibile che uno solo venda un apparecchio così 90 euro, non esiste. Scusami, secondo te, allora c'è un problema. Se io sono scemo qui, la presidente costava per fare 200 euro, lo pago per 250 euro. Cosa fai? Per una mondezza. Perché una volta arrivata la tua, ma è solo che sono pigliati tutti avanti, non sbaglio. Allora, quello stiamo parlando di me, stiamo parlando di una persona che ti dà il numero di telefono, ci sono modi di contattarlo, eccetera, eccetera. Poi, io quelle cose che ho preso ho fatto sempre certi discorsi, solamente di buon lavoro umano. Questo che mi sta prendendo, questo apparato che sto prendendo io, almeno tranquillo, tranquillissimo, mi ha mandato la chiamata, mi ha spedito, cioè si è interessato lui, nel senso si è preoccupato più di quanto mi sono preoccupato io, mi ha fatto anche lo sconto, non mi ha fatto pagare la spedizione, eccetera, eccetera, e me lo spedisce contrassegno. Uno che ti manda una cosa a contrassegno, non so se sia molto truffatino. Comunque, se lo volete vedere, chi c'ha internet, Natalino, lo ricordate perché me l'hai chiesto per primo, tu entra su subito.it, poi scrivi nelle pagine dove c'è la pagina con i titoli sotto, nella parte bassa scrivi audio video, e dove c'è scritto sopra in alto ci scrivi CB e poi scrivi tutte le regioni, mi sembra che sia la terza pagina o la seconda, guardate quel baracchino e poi mi trovate la risposta, c'è il numero di telefono e tutto, e poi parlate, secondo me non è una fregatura, provate un po', prova, mi hai capito Natalino? Ma se lo stai prendendo tu, cosa lo guardo a fare? Però quello non mi interessa, lo metto a chi piace, secondo me a quel prezzo è regalato, perché il baracchino è fiammante, lo devo vedere dentro la busta, cioè te lo fa vedere fuori e poi dentro la busta. Io pensavo non esistesse più quel baracchino, su Superstar 3009 stavo parlando, non so di cosa stai parlando tu Antonè. Secondo te lo sto usando io? Magari lo sto usando io, diglielo tu. Che Superstar 3009 sta usando là? E appunto, e quindi io 90 euro sinceramente lo si muovo a casa. Se tu vuoi comprarlo, compratelo, 90 euro. Poi sono problemi tuoi. Se tu mi frega tutto come hai trovato uno che gli sono arrivati i blocchetti. Per me già 90 euro così. L'altro giorno invece ho visto io un Galaxy frutto, addirittura 25 euro. Dice ci vuole, c'era problemi di finali, quindi immagino che tu subi, non ti puoi fidare, il discorso è quello, allora a un certo punto vuol dire perché vai al supermercato a comprare un televisore di CD, vado su internet, se un televisore al supermercato con il CD 20 pollici costa per dire 300 euro, mi lo sporto con 150. Lo faccio arrivare, ci sono 20 euro di disposizione, per dirvi come di più. Però non sai cosa ti trovi, il discorso è quello. Mai fidarsi su queste cose qua. Mai, la verità si rischia. Perché te prendo io, sempre che fumo, e ti pensato un ecco, costava 300.000 lire, quindi vivo di tu. Ma te lo dico, scusate un attimo. 750 costava il Saturneco. Qua il Saturneco è 750. Io avevo pagato 300.000 lire il 2009 e abbiamo fatto arrivare 6 a Sassari, 6, tra cui 2 io andavo a Ricomio e il resto era Ghero. A me posso intervenire? Sì, c'è dopo intervenire, perché no? Su me posso scrivere ciò che voglio, ma a me non mi frega niente, però che tu mi viene a dire che trovo il 2090 euro, sta tranquillo che è un cesso. Ma è un apparecchio da prendere, perché tu devi avere sempre problemi. Una volta venduto, è come la casa, capito? Non è uguale, una volta che venduto, anche se non frega dei difetti che c'ha, tu me lo frega a me. E poi Roberto, ti posso mettere una fotografia e mandartene un'altra. Allora Gianni, qua non stiamo parlando con indie, noi stiamo parlando di persone che ti danno il numero di telefono, tu ci parli, ti vedi come si comporta, naturalmente i futuri ci sono da tutte le parti. Io ti posso garantire, grazie a Dio non ne ho mai preso fregature e ti faccio elenchi di cose che ho comprato e ce le ho tutte qua davanti, la maggior parte di tutto ho comprato io. Preferibilmente ho sempre parlato qualcuno, ho parlato per via email e io mi rendo conto, non so voi nessuno, però se una persona è tutti invece un po' me ne rendo conto, ci faccio certi tipi di domande, se rispondono estremamente mi rendo conto come cosa. fatto questo dell'Inter, che mi ha detto che lui qualche cosa gliel'ha fatta, gli ha cambiato il finale, mi ha detto guarda ti ho fatto dei forellini per farlo dissipare meglio, ci vede anche fotografia di questo apparato. Mi ha detto le cose pulite e tranquille, è stato onesto le cose, mi ha fatto delle offerte che mi sono andate bene, per cui mi ha detto quando lo stavo vedendo, dice siccome sto vedendo tante le cose, l'ho messo a parecchio con inserzione, non so neanche quanto, non mi ricordo neanche qua, mi ha detto il prezzo, mi ha detto guarda, non ti faccio pagare neanche le spese, perché tra l'altro Santa gli ho già mandato un saletto, ho già spedito uno, un amico, lui subito, vedete, ti faccio un po' come ha spiegato la persona Siria, questo è il supercar, c'è il numero di telefono, uno ci parla, ci chiede tutte le informazioni possibili e immaginabili, e poi gli dici, mandamelo contrassegno, se lui vede che ha appena titubato, allora a quel punto ci stai un po' attento, questa persona che gli ho detto io, mi ha mandato contrassegno, ha speso 12 euro e 10 di spese di contrassegno, fate il conto, e io me lo sto facendo pagare, quanto lo stava vendendo, 75 euro, esattamente quanto, come non ci fossero le spese di spedizione. Questo è il supercar, se tu lo vedi già, ti ritorna la risposta, uno può mettere anche le fotografie di cose agli impianti, però è sempre, devi stare attento, tu parli, telefoni alla persona e gli dici, a me mi interessa quell'apparato, cosa facciamo? Ma lo puoi spedire contro la serie di che ti tubate, a quel punto vado diversamente. Prendetevi la curiosità e guardatevi quell'apparato, e poi mi dite cos'è. Il Superstar, te l'ho detto, è uscito nuovo, è uscito un modello nuovo, il 3009, c'ha un frequenzimetro, è tutto azzurro come l'S9, non so quanti canali c'ha 35 watt di uscita, e costa 250 euro nuovo dal negozio. Già, questo è un apparato vecchio come tecnologia, io lo vedo, è vecchio, c'è un macchino vecchio, c'è lo smitter tipo il coso, tipo nell'ara 48, c'ha le mani a ruotare, c'ha, mi sembra se mani, io l'ho visto in fotografia, non è che cosa, quello che facevo tu sicuramente è una cosa più recente, però se volete vedere un baracchino che secondo me è il più bel baracchino che possa esistere, parliamo di baracchini, guardate il Superstar 4009, guardatevi, quello lì io penso, chi l'ha visto, io se non c'è quel baracchino penso abbia finito. Vabbè. Non avrà niente da invidiare l'S9. Già, guardati quel baracchino, è peggio di un HF, se tu lo vedi e gli metti vicino al 140 dici è meglio del 140 per le funzioni che c'ha quel baracchino, a parte che ha sintonia continua, diciamo sembra un HF, non è neanche un coso, un baracchino, se tu lo vedi dici non ho mai visto una cosa da un baracchino con quelle caratteristiche, c'è uno smitter digitale, ma non digitale come si chiama, quelli con i led, con le barre fluorescenti come te lo ricordi tu il coso, 950 della Kenwood che c'ha quel sistema a barre fluorescenti, tipo le piatte di registrazione per le indicazioni del coso, però ad ago, allo stesso tempo ad ago, è una cosa spettacolare, tutto a cristalli liquidi, c'ha il monopolone del cambio frequenza centrale, c'ha una cartiera, c'hanno minimo una ventina di tasti, se tu lo vedi, io non l'ho mai visto, davvero, l'ho visto solo in figura dove non ci si è spucciato tutti i baracchini, ti posso dire quello è il più bel baracchino che abbia mai visto, di fatto la base è il più bello andati, di baracchini questo è il più bello di tutti, se c'è modo di guardarti internet, digita Superstar 4009 di X mi sembra che sia, e quello secondo me è il più bel baracchino che esiste. E tu vai su eBay, guarda la prima pagina ti vedi il 3009 nuovo che è uscito, sì, già, ma stiamo parlando di un apparato, come si chiama, l'abbiamo quasi, probabilmente l'abbiamatoriale, questo è un sintonia continua, quello che stai dicendo tu c'ha le mani, è un classico baracchini, qui è una cosa fuori dalla norma, già, non avevo mai visto baracchini fatti con quel sistema lì, cioè presente tu, un 440, non è un 140, è un 440 con tutte le tastiere, con tutte quelle cose lì, simile a quello lì, quello deve essere enorme come baracchino, non deve essere neanche piccolo. Vabbè, mi pare che sia con 50 watt quello lì. Non lo so di potente, non ce n'è. Io ho visto solo la fotografia ed è spettacolare. L'ho visto con il museo della radio dove ci sono tutti i baracchini. E c'è questo apparato, infatti ho detto, buh, che cos'è che sta addosso? È la paura. Sembra, buh, cosa ti posso dire? Cosa sembra? È una pefe, perché c'è il manopolone grande, nel cambio frequenze digitali. Poi c'è questo smitter già, che è una cosa spettacolare, tipo il TS2000, con tutti i led e a cristalli liquidi, non erano quelli colorati, cagati. Proprio bello, con l'indicazione di scala ampissima, molto larga, in modo che ti dai controlli. E poi c'ha un bel di tasti numerici, una catena deve essere che puoi impostare anche la frequenza, digitarla, tipo come fai con 440, perché c'ha una marea di tasti. Facciamo girare, se no la gente scappa. Avanti, Giuseppe. Ma non si scappa, tranquilli, anzi, sono discorsi costruttivi quelli, e ci mancherebbe altro, dai. È sempre un piacere sentire le ultime novità che offre il mercato. E per me va bene, anzi, e ce ne fossero di novità non ogni giorno, anche ogni mese, per avere una bella stazione sempre aggiornata e sempre al passo coi tempi. Dai, avanti Mario. Scusa Mario, mi sono dimenticato. Io vi ascolto nuovamente. KK, no, sono discorsi interessanti, perché uno accende il computer e guarda, non costa nulla. Niente, io purtroppo ho tutta roba da museo, tutta roba vecchissima, però funzionava e me la tengo. Perfetto. Le cose vecchie sono sempre le migliori, ma... No, e poi quando mi hanno regalato questo qui, mi hanno regalato Dio, non l'hanno regalato a me, veramente l'hanno regalato a mio figlio. Era tutto mezzo incendiato, tutto mezzo malmesso e niente. È venuto il dottore, l'ha messo a posto e veramente non credevo di uscire così bene, perché credevo che le cose rattoppate andassero male, invece grazie a Dio va tutto bene e tutti me lo stanno apprezzando. No, esce bene, la radio è bella, chiara. Sì. Tu non c'è internet, Gianni? Sì che c'è. No, dico vicino, dai, ma. Oh, ma se voglio prendo il portatile e guardo. Ma non aggiungare una roba, sono un po' stanco, mi sono sdraiato perché sono sbattuto di schiena. Me ne sono accorto dalla tonalità di voce, detto. Gianni sei con qua, sicuramente. E Mario, mi pare che si sta spegnendo un fanale, vero ma? No, non è negativo, io sono qui. A dire la verità, adesso ho pigliato la sedia e mi sono seduto, il microfono ce l'ho in mano, perché sennò è troppo lontano per schiacciare la portante, tutto qua. E niente, non è che sono fresco come una rosa, perché è un po' quei chilometri, me li sono fatti anche luci. Non farti male, non ti invidio, dalla capisci. Ok, ma nessuno l'ha pensato, Gianni, tu che sei cantante, a metterti tipo come fa la Sanremo, il tripiede, e ti metti il microfono e parli in piedi. Hai sentito già che qualcuno ha fatto una cosa del genere? No, negativo. Ma io ho il karaoke a casa, non posso sbizzarri senza farmi sentire da nessuno. Anche perché per di loro, sono andato in certi locali con mia moglie e cose, dove c'era il karaoke, si mangiava, c'era il karaoke nel frattempo e cose, e ci hanno chiesto se voleva cantare qualcuno, e io mi vergogno, però mi piace, perché poi quando cantano gli altri mi mette a cantare a squarciagola. Ma sto dicendo col baracchino, anziché metterlo sul tavolo, io sono in posizione comodissima, ho una bella sedia di quella da coso, da studio, ma bella, la diciamo bella, normale, la, però è comoda perché ha di quelle moleggiate come ti siedi e lo schienale morbido, per cui sto comodissimo. Però dico, tra le immagini uno tipo Sanremo che ti metti il microfono dritto e parli in piedi al baracchino. No, è molto scomodo, è meglio il pedale. Allora, io ho la possibilità, io ho un apparato che non c'ha niente a vedere con i baracchini, però è un amplificatore per le povere dove puoi attaccare strumenti, c'ha il generatore di ritmo, un sacco di cose, c'ha il comando a pedale per attaccare il microfono, lo puoi comandare sempre della Kenwood, devo mettere una parentesi, è un apparato della Kenwood, molto vecchio d'età, pesa 23 kg, però c'ha un sacco di cose, effetto eco, generatori generatori di ritmi, quelli che ti danno la base, fa tu, aumenta la velocità, c'ha tutti i tuni, eccetera, eccetera, dentro un amplificatore, e c'è un sito amplificatore tra parentesi, quindi ti puoi attaccare per dire, la ribocciuti una chitarra, una cosa del genere, e poi ti metti sottofondo di una batteria o qualcosa del genere, e poi ci attacchi il microfono e lo comandi con un pedale, comando a pedale. Perché qualcuno, qualche radioamatore ce li ha senza far nome, c'è i microfoni attaccati a parete che scendono con la giraffa e come andano a pedale? Non lo sappiamo chi è. Se non ci fanno 20 non lo sappiamo. KK. Grazie, stavo dicendo una roba. Io ho un amico che è appassionato come te di musica. Usa le bombine ancora, lui dice che il suono delle bombine non è da paragonare a nessun suono, che è caldo, proprio come piace a lui, e ha due generatori a bombine così. In più, l'altro giorno praticamente è andato a Cagliari per fare uno scambio di bombina, che a uno serviva quella che aveva lui, a lui serviva quella che aveva quell'altro, è sceso sino a Cagliari per andare a prendersi. Quindi la sua passione non ci trova. Io l'anno scorso mi sono fatto un regalo, sono andato lo stesso a Cagliari, prima di Cagliari a, come cacchio si chiama quel paese, Ussana, e sono andato una mattina, una domenica mattina mi sembra, stiamo cercando sempre queste casse, che sono innamorato di questo tipo di casse, sono andato giù, me le sono caricate e me le sono portate, però prima di prendere mi ha portato l'amplificatore, tutto quanto, ho fatto le prove e me le ho fatte sentire e me le sono portate, e ho fatto diciamo una, un buon affare, perché costavano un saccaccio di soldi, sono riuscito a beccarle, è un colpo di canna. Io ogni tanto guardo nei, non dico su eBay, su questi tipo l'occasione, vabbè l'occasione non vedi niente, però questo programma, questo subito guardo molto, di lì ho comprato un po' di roba, ultimamente parli con le persone, metto Sardegna, molte volte ti capita di qualcosa, vai, te le guardi, le provi e se ti piacciono te le prendi. Vabbè, io subito in non sono mai entrato, la verità, però su altri, su altri siti dove vedono la roba, sì. E poi ci vado molto, però sto comprando solo sui negozi B, non sto più comprando da privati, perché come ho preso moltissime, come ho comprato moltissime cose che erano buone e tranquille, una volta ho preso una fornitura, tu lo sai benissimo, da lì mi ha segnato a me, a Salvatore, a tutti e due, ci ha segnato a tutti e due, e tutti e due siamo potresti a comprare la lì. Sì, c'è ragione, già, non ti infido, infatti è stata una bruttissima lettura, però hai fatto un'esperienza, con lo stesso tempo ce l'abbiamo fatta anche noi, infatti se mi chiedono mai fare bonifici Western Union, così avevate fatto quelli internazionali, assolutamente, e poi possibilmente contattare la persona, tu mi dirai, l'abbiamo contattata, eccetera, eccetera, però queste cose internazionali, io ho amici che lavorano su queste cose, che fanno certi controlli, per mestiere, metto, stai molto attento a certe cose, infatti primi a dirmi non sono loro. Possibilmente se riesci a andare a avere il numero di telefono e parlarci e vedere un po' come si comporta è più facile. Voi purtroppo siete state quelle persone sfortunate, ma non solo tu, anche un'altra persona che non c'è in questo momento, che gliela conosciamo tutti, però si è presa una grandissima fregatura e quella è ancora peggio della vostra. Ciao ragazzi, io ho fatto il tempo a avvisare un amico che mi ha telefonato da Roma, mi ha detto, ah già, ho trovato questa macchina fotografica della Canon che qua a Ostia, dice, l'ho vista, costa 1300 euro, lì la vogliono 900 euro, gli ho detto, con che cosa lo devi pagare questa macchina, con che tipo di pagamento lo devi fare, ma è tuo vestito, ho detto, blocca tutto, non fare niente, guarda che c'è la fregatura, che invece l'amico cazzo l'hanno fregato, l'hanno fatto prima di lui e l'hanno fregato. Guarda, già, io sono sempre stato contrario ai bonifici, in ogni caso, anche se rimane, sono italiani, rimane una traccia più facile da rintracciare, però io anche meno di entrare meglio, carte di credito, cose del genere, ho avuto una brutta esperienza io per una carta di credito e da quel momento giù di basta, finito tutto, non le faccio più di roba di banca, di nessun genere, neanche mollette, cose, se preciso andare alle poste, me le pago io, ci perdo tempo, però non ci faccio più entrare niente alla banca, perché ho avuto una brutta esperienza, per cui lasciamo perdere. Io conosco gente che si è arruinata con questi cazzo di cose qua, gli hanno aperto il conto, sono entrati e hanno portato via tutto, l'hanno rovinato, per cui manca meno si entra è migliore, possibilmente contatto diretto e si riesce a farti mandare una messa in contrassegno, preferibilmente da gente sicura come hai detto tu, negozi affidabili, gente del genere, è meglio ancora. Poi se c'è un privato, c'è l'occasione, ti piace l'oggetto, di lì sei sempre a rischio, però io grazie a Dio ti posso dire già ne ho comprato tante, fino adesso mi è andato tutto bene, mi stava andando male quella stazione base della Intec, che non sono stato 15 giorni, non mi arrivava, alla fine cacchio, le ho mandato il feedback negativo, mi sembra feedback negativo, poi mi ha rintracciato il so come cacchio abbia fatto a rintracciarmi, perché questo chissà come ha fatto, perché io il numero di telefono non l'ho mai dato a nessuno. Lui è riuscito a rintracciarmi, mi ha telefonato, mi ha detto che aveva venduto questo apparato il figlio, un ragazzo minorenne di nascosto il suo, mi sembra te l'ho detto, e lui non voleva perché non era quello che aveva fatto, questa stazione base, e mi ha detto se mi restituiva tutti i soldi, io gli rispedivo assolutamente, e io l'ho preso e lei me lo manda. E infatti lui, questo lavorava in una provincia, proprio in provincia, perché poi ho richiamato per curiosità, perché mi rispondeva, era la, risponde la provincia di non so che cosa, deve essere prefettura lavorava, dico, perché ho detto no, no, scusi, ho sbagliato il numero. Vabbè, è una questione di fortuna, quello che hanno fregato a noi, aveva fatto bene il sito, non so se te l'ha spiegato Salvatore, ci ha titolato trasportatore, abbiamo telefonato, Salvatore ci ha parlato, ha detto una persona veramente in gamba, ci ha detto anche che ci regala il microfono, sì sì, disse di mandarlo anche da regalo. Non lo so, però mi dispiace per voi, purtroppo i soldi poi lavorati quando fai sacrifici, cacchio, sono le cose più brutte, perché tu magari ci tenevi, e meno male non mi avete convinto a me, perché se mi avete detto ci sarei passato anch'io, perché io ero arrivato ritardo, diciamo, dopo il coso, perché mi ha detto, Salvatore mi aveva accennato, quindi stavo parlando di stavo per dire, sì, me ne metto anche me, lui io dicevo, l'abbiamo già detto, ho detto, va, lascia stare, se no sarei stato convolto anch'io, non ci credo. Sì, ma la cosa era fatta talmente bene, quando siamo andati con Salvatore, la polizia postale ci ha detto, loro lo sanno che prima o poi li bussiamo alla porta e li mettiamo i ferri, però sino a quel momento fanno una vita a Mabbi, vanno in locali di lusso, in alberghi di lusso, poi scappano, capito? Ti rispondono con la scheda dall'Inghilterra, comprano la scheda solo per rispondere, poi la buttano via, non sanno di chi è di chi non è, li tirano il conto e scappano. Non so se tu l'hai vista, le Iene, quel tipo che vendeva, non so cosa, come tu macchine fotografiche, aprite e tracciati, e non so quante ne ha fregato, più di 400 persone ha fregato questo qua. Alla fine l'hanno condannato a un mese di reclusione, poi lui ci ha fatto un'altra agenzia, ha fatto tutto, non so come te, ma modificava anche i feedback, perché l'avevo l'informatica, metteva per dire 2000 feedback positivi, super stella di coso, di mail, un sacco di cose, riusciva a entrare anche nel l'accoso di figurati, e l'hanno beccato quelli di, non so se avevi visto, quelli di Raiele, l'hanno proprio perseguitato, l'hanno inventato, e lui si negava di tutto, si nascondeva, alla fine l'hanno beccato e fuggito, l'hanno chiamato la polizia, l'hanno detto l'abbiamo condannato per un mese, purtroppo in Italia non ci sono pene severe, non c'è la reclusione. Con tutti i soldi che ha rubato, quello è rubare, è rubare, e non sono pochi, perché se vende macchina fotografica che le fa pagare la banca i soldi. Giuseppe, va. Sì, già, beh, purtroppo in internet funziona così, dai. E non vi ricordate allora quello delle Mercedes che hanno fatto vedere anche a Striscia la Notizia? E quello quanta gente ha fregato, quante volte è riuscito a venderla quella macchina facendosi dare gli anticipi. Addirittura mi ricordo quando era andato l'inviato di Striscia la Notizia, dopo un paio di minuti aveva detto guarda devo scappare perché ho appuntamento col cliente qui a tot chilometri da dove stava facendo l'intervista perché devo ritirare l'anticipo perché devo vendere la macchina anche a lui. E purtroppo in internet funziona così, Sì, e perché quelle concessionarie che hanno fatto vedere si vendevano le macchine inesistenti, eccetera, eccetera. Io conosco uno però che è andato su eBay e questo gli ha venduto un prodotto scadente, è andato su, l'ha cercato, l'ha minacciato, se non mi do in fretta i soldi, ti do una sua, quello qui. Allora se gli ha restituito i soldi. Salvatore che è una persona che ha a che fare col pubblico, anche io, vabbè comunque, lui ancora di più con denaro, con coso, e l'hanno fregato lo stesso, è un imprenditore, cavolo, quando mai si faceva fregare così, eppure ci hanno fatto la cosa talmente bene, talmente ha detto che era un'organizzazione internazionale che erano sparsi un po' da tutte le parti, il sito era stato fatto, l'ho scoperto dove era stato fatto quel sito, magari lo fanno per dire in Polonia, poi l'altro in Inghilterra, c'è un'organizzazione a livello grosso, capito? Gianni, scappa. Ma qui stiamo già parlando a livelli di organizzazioni che iniziano con la C, non sono dei principianti quelli. No, infatti la polizia postale ha detto che è difficile che li scambiano, però dice prima o poi li abbussiamo la porta e li mettiamo in ferri, ma sì, a quel momento lì loro fanno una vita a Babi, fanno nei locali rinomati dove si pagano bene, alberghi di lusso, capito? Loro si spostano con questi soldi che si fanno, vivono una vita a Babi, sì, al momento che poi li beccano, quello, ma beccarli dice è molto difficile perché è una realtà talmente grossa che si spostano a parte l'altra, quindi come fa a beccare? Sì, ma poi carte telefoniche e telefonate che fanno il giro del mondo prima di arrivare a te, la telefonata passa in mille posti, mi hai capito? Paradisi fiscali, isole, mai sentiti addirittura, no? Manco ti immagini di conoscere certe isole sulla cartina geografica. Figurati quanti giri riescono a fare questa gente qui. E poi vai a recuperare tu i 200 euro che hai perso, ma anche se fossero 500 euro, attenzione Gianni, non risolvi niente. Non risolvi niente perché non riescono a recuperare grossi capitali e voi che stiamo pensando ai nostri 500 euro che andiamo a perdere su eBay o su qualche altro canale di internet, dai, e anche la polizia postale, dai, già lascia il tempo che trova. Non si dice, capito, perché è un po' difficile, l'ho detto anche a mio cugino che maneggiava in finanza, mi ha detto già, è una cosa, tu puoi fare la denuncia qua, ma è una cosa quasi impossibile, sono introvabili queste persone, perché se cosa fanno? Comprano le carte telefoniche in Inghilterra, che servono solo per l'ascolto. Loro prendono, quando tu li telefoni, ti danno il numero di quella carta, quando tu li telefoni rispondono, ti dico sì, però mi ha detto Salvatore, muovetevi però a fare il versamento, perché se no l'apparecchio noi dice, lo vendiamo a un'altra persona, anche se l'avete prenotato voi e cosa, se vediamo che non arrivano subito i soldi, noi lo rivendiamo. Beh, fatto sta che Talibu sulla Brescia ha mandato la moglie Salvatore, ha dovuto fare una delega perché praticamente per pagare con questa tipo di cosa, Western Union, ci vuole ti devono fare un numero dalla banca e praticamente ci vuole una delega del testatario. Ci ha dovuto fare un casino di cosa per fare questo pagamento, mi ha telefonato già, portami i soldi perché sto mandando mia moglie, io ho portato i soldi subito, sono volati Giuseppe, quello incazzo che mi dà che ero, mettevo 50 euro al mese così per comprarmelo, cazzo, quando ho avuto il costo poi ci ho buttati via. Su quello ti posso capire, perché guarda l'incasso, quando poi sono lavorati, sudati soldi, è la cosa che ti dà più fastidio. Però una cosa ti voglio dire, questa gente quando fa questa storia qui in internet, le classiche truppe, diciamocelo chiaro e tondo, tranquillo Gianni, che sono delle organizzazioni che sanno dove mettere i piedi, cioè se ti devono fottere in internet, stai tranquillo che questa persona qui, queste organizzazioni qui, entrano, ti fottono e poi magari spariscono e vengono fuori poi domani sotto un altro nome. Noi magari che mettiamo una cosetta così da vendere in internet, o magari metto la mia macchina da vendere in internet e voglio fregare a tizio, cazzo, ti beccano subito. Qui il discorso è che quando cominciano e la macchina fotografica, l'impianto stereo, la stazione base, tutte quelle storie lì, ma c'è dietro un'organizzazione che noi, guarda, sicuramente non abbiamo manco idea di come funzioni, talmente grande. Ha detto che fregano dalle 500 alle 700 persone al giorno. quindi figurati tu caso il giro di soldi che hanno questi qui all'anno, dai, comunque, ma io dico questo, niente, io per quanto poco comprato in internet ho sempre preferito pagare per contrassegno. Se arriva la cosa la pago, se non arriva pazienza, magari ho speso due battute in più sui tasti della tastiera del computer e ci ho perso la mezz'oretta per cercare il prodotto che non mi è mai arrivato, però i soldini me li tengo in tasca. Lo so, ma Giuseppe, ti possono fare, ho anche avuto questa esperienza, mi è arrivato praticamente, ho visto la fotografia a questo apparato, nuovo, me ne è arrivato uno che nuovo non era per niente, era tutto scostato, messo male, sembrava che avesse fatto la guerra. E allora gli ho scritto che se non prendeva immediatamente gli rispedivo l'apparecchio a spese sue, se non lo riprendeva li mettevo il feedback negativo e lo denunciavo pure perché lui aveva messo una cosa che non era veritiera. E mi ha telefonato addirittura scusandosi che lui pensava, lui ha messo un apparecchio così per far vedere com'era, dice però non era il mio, la verità. Scusate, io ho detto, io le sto rispondendo l'apparecchio, ho fatto praticamente, mi ha rimandato, mi ha accreditato i soldi in banca, capito? Diciamo che lì magari hai trovato anche la persona onesta, però in internet e su eBay, ma ce ne sono tanti che oggi hanno un nome, io ne ho conosciuto uno, adesso mi scappa il nome, però se cerco da qualche parte ce l'ho registrato, no? Ma lo sai la gente che ha potuto in internet e l'indomani entrava con un altro nominativo. Vabbè, prima di tutto vediamo se c'è ancora Mario perché stiamo monopolizzando. Avanti Mario e poi riprendo io là. Riprendi, non problema. No, vabbè, io per interrompere, dai. Per me c'è facoltà di mi guardo un po' di televisione. Comunque, bella chiacchierata, sto guardando l'orologio qua, 2:52 sono collegato al baracchino, ma non mi sbaglia. Era un po' di giorni che non parlavo, mi manca già la voce. Comunque, sempre un piacere fare i miei discorsi interessanti. Ciao Gianni, ciao Giuseppe, come si chiama Mario, eventuali ascoltatori. Qua vedete da parte mia, aspetto i saluti finali e se no ci sentiamo nel prossimo. Ciao ciao a tutti. Ciao. Alberto, saluto e a Fortito, riprendete, fate girare per i saluti e a parare. Ciao Roma, ci sentiamo, buon corretti, avanti Giuseppe. Cappa, grazie dottor Romme. Ciao Romme, il piacere è tutto nostro perché quando, quando si sta bene, come hai visto anche tu, il tempo vola qui in frequenza. No, dai, va bene così. E buon corretti, buon tutto, buon tabacco per domani, ci risentiamo alle prossime Romme. Avanti Mario per i saluti. Ciao Romme, buon corretti. Buona carica quando la fai e ce la riscoltiamo alle prossime. Ciao ciao. Perché sta ti se cosa ti sei appisolato? Ciao Mario, lei è appisolato stanco morto, cavolo, c'è la marina. Va bene, ci ascolto un po' e poi anch'io. QRT e ciccia. Sì, infatti ci sta decidendo qualche cosa, abbiamo cercato 30 volte poco fa, non ci rispondi. Peccata me la. Forzata. No, oh, il sonno più che forzata. Ah, vabbè, qualche. Si sanno, quando si tratta, a volte ti addormenti nemmeno te ne accorgi, come succede anche a me molte volte, mi vergogno anche perché vorrei salutare prima di andarmene, e perché poi non te ne rendi conto, tutto di colpo ti vede solo blu e t'attacci. Ma insomma, ma mi devo riprendere io qui o che cosa devo fare? A Gianni, ma vediamo, mettere a me, uia, a Giuseppe. Avanti Giuseppe. Thank you very grazie. Fai che, ma vi devo riprendere. No. Non lo so io. No. Beh, la stanchezza purtroppo prende sopravvento molte volte. e K di positivo, dai. Oh, anch'io sono stanco, eppure sono sveglio. E vabbè, Giuseppe, lo sai cosa c'è? Che il fisico, come tante altre cose, ha un limite di resistenza, poi a quel punto lì crolli. E così è successo a me, a Falchetto, penso che succeda a tutti quando si sta. È K di positivo, ma tu figurati che io molte volte faccio dalle 5 alle 7 di sera e poi mi devo sorbire anche voi qui in radio, oh, ma ce la vogliamo dare una regolata? Caspita, buonasera. Buonasera Bombolo, ben sentito e cordialità, K. Buonasera a tutti. Allora, vi stavo ascoltando, sto sbrigandomi un po' di cosette qua. Ciao Bombo, buonasera. C'è anche te Mario. Mario, ma vogliamo dare una tirata alle orecchie a queste ragazze che hanno sonno? Che manco io che sono vecchietto. Eppure sono attesi, mi passano un rovinaggio. No, io stavo dormendo e stavo facendo cosa. No, non era per te, no, Bombolo. Era per Falchetto e per Doppio Rum. No? Forse siamo qui e facciamo il lavoro più pesante. E ci stanchiamo di più. E cosa avete di dire? E Bombolo è meglio lo stesso. E noi che cosa facciamo? Cioè, lavoro leggero. Noi ci giriamo i pollici e contiamo le ore, secondo lo Gambolelli. Attenzione Doppio Rum, lì quando riposa e ozia il dopo pranzo, né vero, dico né vero e rivero, il buon Peppino galoppa. Macina chilometri e zappa, zappa. Oh, già lo so Giuseppe, non sto dicendo il tipo di giri pubblici. Però, vabbè, ognuno sa di sé, non è? Stare tutta la sera, tutta la mattina caricando, scaricando, portando, tutto manualmente, non uso la gru, non uso la pedana idraulica, è come Fantuno la stessa cosa. È K di positivo, dai, ma va bene così, già, siamo un attimino più reattivi, mannaggia, ogni tanto quando vi capita l'abbiocco, le due dittine nelle dito della presa, che fa molto reattivo quel coso lì, dai, quel gesto lì. Così si rimane un po'. Così andiamo a cavallo di tutto. Gianni, vi fa i capelli ricci. Dritti, dritti. Falchetto balza fuori. Correia, Falchetto è sorpresa. Vi saluto a tutti. Chiude le trasmissioni. Sono stati migliori. Ciao Gianni, ciao Giuseppe, ciao Mario. Poi con Mario abbiamo già l'opportunità di sentirci anche domani mattina. Ciao Antonio Bocco e ciao agli eventuali ascoltatori. Ciao ciao, buonanotte da parte mia. Ciao Falche, buonanotte. Ciao Falchetto. Falche, buono. Falche, domani mattina se passo una sera alla seccata te ne dai camion stesso mi. Metto il pilota automatico, il nido te ne butto giù, mannaggia. Ciao, buonanotte. Ciao Falche, buonanotte, dai. Ce la risentiamo domani, dai. E avanti Bombolo. Ciao Falche, buon QRT, buon tutto, ce la risentiamo all'impressione. Mi è sembrato di sentire la voce di Pierpaolo. Avanti Pierpaolo, buonasera. Sentite Giuseppe. Negativo, ho sentito un qualcosa poco fa, infatti mi hai preceduto tu nel rilanciarlo. E in questo passaggio no, ho sentito solo quel reme. Va bene, non lo diciamo mai. Va bene, allora te lo dico io. Ha detto per Paolo che parte sua sempre, di mettere le porte tue e basta nella presa. Vabbè, ci potrebbe anche stare, è sempre un motivo in più per essere sempre reattivi, sia le dita che le parti basse, va bene, dai, non ci sta problema per quanto riguarda me. No, basta bene l'acqua di nostra signora di luce e vedrai che rimani bello, tetaro, di vivo mari. Natalina, hai già pensato a Pierpaolo? Lo so, l'acqua di luce fa miracoli. Vedi Pierpaolo, scusa, non ti ha sentito perché sei in bassino e Natalina ci ha coperto, ripeti. Paolo? E gliel'ho già detto, ha detto per quanto riguarda lui tutto va bene, figurati di me, vuol dire che tutto darà pace a me, Pierpa. Gatta, gatta, hai sentito Giuseppe? Negativo. Ehi, maraviglioso, non ho bisogno di soldi, gli dice che non vuoi accostare. Guarda che non si sente, ma comportati le sta a parlare. Ehi, allora sentiamo noi due, Mario, perché siamo vicini, là. Io per me è negativo, se no non ho nessun problema per rispondere, però se non sento non posso rispondere, non posso andare così a tentoni o a vanvera perché magari potrei fare anche una brutta figura, però ripeto, per me sono QRM qui nel mio apparato K. No, te l'ho detto, visto che lo sai progettarlo, provalo tu prima. Carta di positivo, ciao Pierpa, adesso ti copio, mannaggia i pesci rossi, bianchi e arancioni. Sì, io ho già provato con le pinzette, Pierpa, e ti dico che è una scossa di adrenalina che... su che andiamo? Lascia fare i pesci però... Ero il portatile, capito? C'avevo il portatile acceso perché ero seduto vicino alla scrivania del computer, stavo ascoltando il computer. Adesso sono venuto qua per rispondere, visto che non mi ascoltavi. Niente, era tutto, visto che hai menzionato tu, di provarlo. Ammazza, mi sente pure Mario, ecco il portatile. Ma se vuoi dire a te Pierpa, io per esempio non ti intendo come a stessi, come ti non ti intende Giuseppe e l'altro, ti sente solo Gianni e Mario, che so di dire a te, ma noi come pretendi che ti possiamo sentire col portatile? Vabbè, ma io ero nella stanza interna, neanche vicino alle finestre, me l'ho sentito e Mario è tanto vicino, Allora, io no, ti dico la verità Pierpa. Se no avrei rilanciato, però QRM, la verità, QRM, adesso ti sento e non posso negare, infatti ti ho anche risposto, però credimi, poco fa QRM alla grande. Continuate. Bitte scene, da voi non so come ti si dice in tedesco. Avanti bombolo! Ciao Pierpa! Dice da che scene e l'altro dice bitte scene, vuol dire molte grazie, molte prego. Raus! Kartoffine! Volkswagen telefonica. Attenzione, Bitteschen, Kartoffeln, da voi cazzo non so più cosa cazzo di. Avanti Mario. Arbeit nicht gut. A me sembra che io sia preso dei colpi. Che ne so io Mario, cazzo, il suo tedesco, cazzo, io trovando un casino, cazzo, i due Raus, Lus, Weiss, Winding, e chi tal giudizi, Volkswagen, e chi tal giudizi, non so cosa, E qua... ti dica, Mario. Mitteschen. Anche sì. Telefunken. A me una volta gli ho detto Telefunken, Volkswagen, non so che cosa, Kartoffel. E questo tedesco mi ha detto, voi italiani macchinone. Tutto bene, tutto bene. Buongiorno. Guten Abend. Natalino tedesco, un tedesco pare. Che ci prende una pizzina che la tedesca, io lo dico. E cos'è di dirzio? Dimmi di... Certo, c'è il giorno, la capri due, che c'ha il momento disperato, non lo vedi entrando. Ciao Pierpa, ciao. Buonasera. Oh, capri due, come ci dispiace, non ti abbiamo proprio sentito. Buonasera. Direi che ho beccato una fogliatina anche il break, ho fatto, ho chiamato e peggio che ho fatto. Ah, cappagamba, vabbè, la radio non mi piace, capito, te lo devo dire, non sono Roberto io, però non mi piace, è strana, è strappata. Io che non so, mi sa vero, non c'ho voce, non vuoi che alza la voce? Alza la voce e fatti sentire, che dobbiamo stare svegli, se no ci addormentiamo. Dai, dai, che l'ha freddato gli altri due, poveracci. Come si chiama sul lato loro, stavo succedendo. Non mi chiedere, devo lasciare il comune, hai capito? Quelle proprio che mi dicono la storia dello scuolabus, ok, vuol dire che hanno adesso però qualcosa al telefono con un ingegnere della mobilizzazione di Cagliari, gli era di dovevo fare l'AE adesso, le riprese già. Vagava. E perché cosa prende la pasta? Non è che lo prendo già io adesso questa roba che quella se devo andare perché non ho visto altri concorsi in tutti i posti molto più importanti già. Mi dà proprio fastidio, hai capito? Adesso mi devo venire a malgramare con delle nuove persone, e l'altro 30 me ne vado a fare già. Mi compro la motrice, se va bene un accordo, sì. E mio figlio non ce li ha le cose, io già ce li ho già a farlo. Ehi, vabbè, già. Tappa, si dà grande per tappare in chilo, esatto, da fuori. L'amicizia poi già si fa, bisogna essere un po' socievole, tu già lo sì. Quindi, come è fatta con le altre, la fa anche con queste. Magari sono anche più buone e ti stimolano di più. E quello gli ha portato sempre sui miei passi, perché gli ho girato e gli ho avuto. Ora, ne ho ancora anche una che c'è potuto trattare, che mi ha detto, quando vuoi mollare o fare la famiglia non me la cambio mentre per te per nessuno. Se li viaggi e incuria, però devo trovare il robusta e poi. Ma abbiamo fatto un po' già, perché io ho un anziano, la guardo con queste due tipe che sono, guarda, l'elite erano delle. Chissà che capo viene adesso, volevamo andare pure a sorella, capito, la sera, non sapevo neanche nulla, domani devo andare. E comunque hanno comprato posti importanti che qualcuno mi serve in quel poco che ho occupato per sbrigare le varie cose. Non niente, già, sono, capito, una persona che sa anche fare il barbone, mi glielo detto. Uno sa, ma non già l'ha detto con gli amici tuoi, però so fare anche il barbone, ovvio, detto. Però io so pigliare il picco, so fare qualsiasi mestiere, mi sono so anche devo rivagliare, compreso già. Riprendi Natalino, buonasera Natalino. Buonasera già, Roviaria. E guarda a vedere prima come finisce la situazione. Bisogna vedere che magari quelle che arrivano sono meglio. Tu guarda prima. Quello che gli ha detto. Mi ha dato dappertutto la salì perché quando ero nell'arma mi aveva imparato tante cose, che hai capito. Niente, però mi dispiace una cosa, che se sta andando un pezzo di me con loro. Guarda, gente che, capito, mi sono fatto sempre, diciamo, voler bene, infatti gli ho fatto vedere cosa mi scrivono anche sui puri quando fanno gli appalti, ha proprio servito sempre i marini, però mi manca roba, capito? Ma la brucia del cuore non sono un'altra persona, niente, ci mette lo stesso, comunque mi ha dato l'apertura, ma mi dispiace molto perché come la sorella una era quello che è nata lì, hai capito? Però va bene, il mondo non si ferma qui. A mia moglie ha detto, non mi doveva sedere tu la cosa, perché non è meglio, sì, ero un po' leggero, un po' basso di voce, perché ogni tanto mi becco qualche colpa d'aria, niente, oh, non mi devo mettere malumore, mi ripeti, Giuseppe, dai, a sé che mi trovo la bella, e su che andiamo! Dai, ma bravo, certo, faccio aggiustare quei trucchi bene che c'hai. Su che rulliamo, Capri 2, e su che andiamo. E niente, e qui mi sta arrivando, se devo essere sincero, con un R2 sul mio modestissimo apparato. Che sta succedendo, Capri? Ok, l'apparato è sempre quello, Giuseppe. Non ho toccato nulla, è come diciamo, mi accendo. E come l'ho lasciato, non ho toccato nulla, sul palco è lui. Santiago è sempre buono. Anche qua arriva così. Capri positivo, anche alla me. Ciao Capri. Cosa controllate? Segnale la radio. Così e qui di modo che azienda che mi senta, che mi fate. Guarda, come mi sento, sto ascoltando una conversazione di Gianni poco fa. Non sono entrato perché ero così a cappottino su tavolo di queste fregature che si prendono, purtroppo il mondo è pieno di fumi e la gente lavora onestamente con sacrificio, poi trova il tipo che ci sa fare di caffè, sono quelle cose da non molto molto fastidio, purtroppo stiamo vivendo un mondo, come vi ho detto, niente, bisogna stare attenti a queste fregature, di più quando mi scordo che avevate con Roberto, stavo ascoltando. Ok Mario, buonasera di nuovo, mi sembra che c'è il Paolo che l'ho salutato, ma anche Antonio c'è, se non sbaglio. Comunque, rinnovo tutto a Pierpaolo, andate Pierpaolo. Positivo, buonasera Capri 2, mi ha ascoltato, io ti ascolto bene qua, dai. Anche io a te per fare niente, come modulare. Mi ha dato questa gentino Alessio, mi va più per bene, ma quel balconario ho guardato più, come se potevano scappare. L'importante è ascoltarci, mi c'erano per scambiare due chiacchiere, anche te. Hai capito? E niente, già, quella roba lì, me l'avevi raccontata, è stata una doccia fredda, chissà quante persone hanno fatto il coro per comprare quell'apparato, riprendi? Mi hanno detto che fregano un sacco di gente al giorno, anche 1000 persone al giorno mi hanno detto che fregano, figurati tu, l'organizzazione è grande, enorme, in tanti paesi, eccetera, eccetera, quindi sanno il fattore. Ho bloccato un amico mio che mi ha telefonato da Roma, non so se l'hai sentito, che l'ho detto. Mi ha chiamato, già ho trovato la macchina fotografica Canon di quelle Reflex, 950 euro di qua, e a Roma Ostia costa 1200-1300, se non ricordo. E ha detto, che tipo il pagamento fai? Vuoi sti uno? Lascia stare tutto, gli ho detto, non prenderla perché c'è questa fregatura. E invece l'amico non ha fatto in tempo, gli ha telefonato in fretta e l'aveva già pagato. Sì, perché già capito, quando vedi la differenza che ci sono le 400 euro in meno, capito, ti butti subito, però anche uno deve fare funzionare il cervello, perché questo, se questa sposta la prende così, tutti quanti questi ragionamenti bisogna farli. E però diciamo, siamo tutti così, non ti avvedo anche voi, tu non ti accaparrano subito perché mi hanno detto che se no lo prendevano a un altro, vi siete buttati. E quella già sono lezioni che si imparano, sono lezioni di vita che la tua si affronta, come te la chiesi una nevascia o si butti in una volta, e così è la stessa cosa. Riprendi Mario. E a Cappagnata, ma io ne ho sentito tante, però non mi sono mai fidato di comprare sui B perché ne ho sentito diversi e anche loro ne avevano sentito diversi che erano già stati pregati e purtroppo anche loro ci sono caduti, dice ma devi sentire proprio a me e purtroppo la ruota gira prima o poi si mette lo zampino tutto lì e niente là. Facciamo riprendere a Pierpaolo che ieri sera l'ho sentito che stava recitando una bella preghiera con suo vicino di casa. Avanti Pierpaolo! Mi hai sentito anche tu? Perché mai ho sentito anche quello che è entrato, si chiamava Giulio. Proprio nel momento che gli stavo dicendo una parola dolce e se ne è beccata tutta lui. Quello era Carburo, Carburo Pierpaolo. Ah, Carburo, Carburo ci ha preso le parolacce. Sì, ma ha capito che non erano rivolte a lui, Pierpaolo. No, in un primo momento mi stava rispondendo lui. Gli ho detto che la sua mattina non era lui, però non capiva perché. Lui mi sentiva, ma era un altro canale. Capito, mi sentiva a me, ma non eravamo a locale, poi non ci siamo capiti. Comunque, non pensavo che mai era talmente vicino a me, perché so il punto dove era, no? Mi ha sentito per forza. Però ci giuro, stavo uscendo con 10.000 watt, e non credevo che mi ascoltasse nessuno, a parte questo verme che c'ero lì di fronte. Cappa di positivo, ma tu ci sentivi a noi rispondere a te quando davi l'orazione? Tu non ci sentivi? No, non ho sentito nessuno, ma noi eravate un altro canale, però perché io sono rimasto sul 21, voi eravate un altro canale. Negativo, perché noi ogni tanto alla tua orazione, e qui c'è gente che può confermare, quando tu lanciavi l'orazione noi facevamo ora pro nobis. No, eravate in un altro canale, io sono rimasto nel 21. Dove però io l'ho sentito sul 19 alfa, io ero la scrivania del computer, ero la lì che contrastavo lui, mentre voi parlavate e mettevo la portante, io parlavo lo stesso sopra di lui. Cappa di positivo, però tu non sai cosa è successo ieri, che poi, come per magia, siamo ritornati sul 19 normale, Pierpa, prova a chiedere conferma anche Antonio. Io ero sul 21, non mi sentivo, no, se no, che stavate sul 19, non mi sentivo. No, che lui poi è rimasto quel imbecille, è rimasto come sul 21, metteva la portante, non si sa a chi. Lui come smetteva, io gli davo subito la parolaccia. Apriva di nuovo, come ne smetteva, gli diceva la parolaccia, gli ha fatto niente. Non si sa che la pugnava poi la portante. Oh Pierpa, noi ieri eravamo tutti quanti col saio qui, tutti quanti con i sandali, col saio, ti giuro, gli abbandono si intendia, se stavi uscendo con 10.000 watt, talmente era l'incasso che avevi, che gli abbandono si intendia rugoso, no, il rosario, e da poi noi che bacchia tutto l'altro coro, ora pro nobis. Allora, vuol dire che la prossima volta che ne manco con 10.000 watt, che fuori, la prossima volta gli trovo anche la tenda, quel portatile. Tanto guarda che tanto stavi uscendo forte ieri lì, sei con 10.000 watt, se non mi ricordo male, Mario mi può correggere se sto dicendo qualche fesseria, Mario ti prendeva in pieno, dico bene Mario? Sei capo di positivo, ma io a Antonio gli ho detto di lasciarlo perdere, di non incazzarsi e di venire con lui al 19 alfa. E poi lui si è sentato, però non so se te l'ha detto di cambiare canale, se ti ha fatto qualche massa. E qui Antonio già è in ruota, non ci sono problemi, è vero. E niente, sì, vabbè, io guarda, tutto quello che gli hai detto io ho sentito tutto. Adesso adesso non rispetto le parole perché qui c'è la signorina e non va bene, ma se no guarda, me le hai detto di tutto e di più. Ah, questo mi dispiace che si sia sentito, perché boh, di solito quando sono lì all'interno non mi sente nessuno. La vita mi sente solo Gianni, la volta mi sente solo Gianni. Però ero talmente all'interno che quando sono lì non mi sente nessuno, con 10.000 in radio blu. Mi sono portato in radio e smorza pure l'antenna. Perché quando è così no, è difficile che non mi ha mai detto nessuno che mi sentiva, perché le volte ho chiamato e non mi risponde nessuno. Ehi, vabbè, non ho detto niente di male, due paroline così messe in croce e boh. Gappa, gappa, l'hai visto la vita. Che c'è sulla Mario, che aveva scritto la mamma? Via, non le ripeti la macchina per la signorina, no, che se no si scambia le zeggia. Dici, che non si può fare anche tu, ma di... Mi hai detto di tutto e di più. No, tranquillo, io adesso non dico niente, loro. No, ma boh, siete il mio letto, il momento, tutto da un maradaglio, ho detto, ma non è che la voce da me, quando siete passati, io dico 19 alfa, lì mi sono scatenato la grame, ti ha detto tutti gli altri colori, però sentivo che eravate su 19 alfa, boh. Ma io ti sentivo lo stesso, guarda, io ti sentivo lo stesso perché... Questo apparato sappia che faccia i miracoli, quando devo ascoltare a te, ti ascolta anche se sei in un altro canale. Oh, vabbè, non lo sapevo. Cosa gamba, infatti, anche stasera come sei entrato, eh? Questo è... Vabbè, non facciamo entrare subito. Tu mi per favore sta dicendo la preghiera. Non so, mi siete tra voi, tipo... Vi siete stramodulati, il signor Topio Room e il signor Mario. Io non so da chi iniziare a tirarvi le orecchie. Attenzione sul 21, a piano e a pagapago. Permesso. Avanti. Pierpa, stavo dicendo che probabilmente non siamo passati sul 21 dopo, perché io ti sentivo bene, tranquillo. Ti sentivo sottofondo, però ti sentivo bene, le parole belle scandite, anche se ti sentivo in lontananza, però già ti sentivo. E ho capito tutto per filo e per segno. Allora avete fatto i migliacci perché siete passati al 19 alfa e poi mi avete raggirato e siete venuti al 21 a vedere cosa dicevo io. No, negativo. Cioè, se noi eravamo nell'alfa e a tuo figlio gli ho detto dire a tuo padre di non incazzarsi e per favore di venire in questo canale qua, poi non lo so, mi chiedi se ti sto dicendo bugie, però io su 19 alfa a te ascoltavo tutto quello che gli hai detto, hai detto faccio buttare la mamma, hai detto che mi deve bagnare, sai che era un corrotto di pulizia di pure la mamma. Incazzata rimane a sera, pari a caso un rullo compressori, su chi andiamo? No, non è incazzato no Giuseppe, mi stavo divertendo, visto che lui mi metteva la portante, e io ero in ascolto, ero col portante, non mi lasciava neanche ascoltare, e allora oggi come tanti io pure non ho stuzzicato. Mettiamo il puntino rosso nel canale. Perdà, io sono sicuro, per come eri incavolato ieri sera, se giravo tutti i canali, ti sentivo in tutti i canali. Esagerato, con 10.000 in vata, no. No, che cavolo, come fai? Cioè, te lo giuro, era importante, non era questo qua, Ma ti sto dicendo che io se ieri giravo tutti i canali, ti sentivo in tutti i canali, perché noi pensa, stavamo modulando, io, Giuseppe, Gianni, però avevamo l'importante che finivamo di parlare, nello spazio che rimaneva tra uno e l'altro, ci sentivi tu, allora tutti quanti ora avranno visto. Tu mi sentivi? Io sì, se ti sto dicendo pure quello che mi hai detto. No, Antonio, Antonio, tu mi sentivi? Da nove anni ma no. Cazzo, anche il microfono ha toccato, dimmi tu. Ecco, possibile. So quelle cose me le dimentico. Oh, io, Natalino, vecchiando stiamo. Mi si ci butto tutta la vecchiaia a carogna. Bisogna mettere una donna per trovare qualche altra cosa da fare. Dimmi, un suggerimento ti ho dato Giuseppe poco fa. Ogni tanto l'ho presa così ti sveglia. Non il dito, il dito grande. Poi che quello mi serve, che? E anche cosa, schiaccia la portante? No. Allora che cosa, lampa di tutto il culo? No, i due di domani mi serve, il dito di Gesù, cazzo. Thank you. anni, che è ma passato? Me lo faccio lui. E mi ricomincia a dire parolacce, se non me lo dice. Ma no, è stato volontario, non sta lì. Avete parlato in due. Probabilmente ero io, non sta lì, involontariamente. E non si può cominciare a aprire un libro, mi. E un libro? Dice di la messa. La Bibbia. Prima cominciare a dire pure di la messa, compreso. No, ma io lo faccio volontariamente. Non mi ero accorto che avevi aperto il microfono. Ma non era per te, stavo scherzando, non me ne sbatte nulla. Mi vuole basta canto di bare di altri, sono con bucato, sono con rubrese e sono con 5 rate, figurati. Io mi faccio una fettina di torta, un secondo, eh? Boh, boh, sempre mangiati, eh. Buon appetito, buon appetito, Giuseppe. Ma tu per quanti la prossima volta? Ciao! Ai ai ai! No, non la mangio! E quello è micidiale, ma la giusto! Quando lo mangio mi fa salire subito la glicemia! E lì il frigore sta venendo, però sono a dieta! Dieta si pensa! Via! Ma te l'hai fatta tu, te l'hai messa tu la dieta! Via! E vabbè, già vabbè, siamo in periodo di quarisima, quindi bisogna anche fare un po' di dieta. Gianni, Eia, non è vero che a dieta, l'ho visto io che ha allungato il dito nel frigo. Non ha pigliato manco un cucciolino, l'ho detto l'ha pigliato in mezzo alla tiramisù. No, no. Da tu se ne potrei, no, è intatta la vaschetta. E in terra senza neanche toccare. Ma io devo essere sincero, dai, è inutile che mi nasconda dietro un dito. Ha fatto la torta stasera e ti devo dire la verità. Un paio di pezzi, dai, me le sono mangiate perché poi magari si adira, non ti piace. Non è buona, faccio la torta, faccio queste cose qui e non le mangio. E allora per forza di cose lo sforzo lo devo fare per gustarla, o per Paolo, Gianni, e Natalino e chi c'è qui in ruota. Per forza di cose lo devo fare, anche se non ho voglia, un pezzetto lo devo mangiare, dai. Ma guarda un po' che tu fa lo sforzo per mangiarsi la torta, ma ci devo credere. Avanti Pierpaolo. Sì, ma la Luccato, non mi parli di munizioni di dito, io la giudicchio con un cucciaio. Col mesto. Avanti Pierpaolo. Ho detto, se devi fare proprio tutto questo sforzo, tutti quelli che hai nominato, veniamo lì sotto la finestra e facciamo lo sforzo per te. È capa di positivo, non ci sta mai problema, per l'amor di Dio, guarda, proprio per quello problema non ce n'è mi, dove mangia uno ne possono mangiare anche sette, non ci sta proprio, portatevi il saldatore che ho problemi al microfono, capa. Giuseppe, così pure a me non ti dice niente, ti dice caspita, ti è piaciuto davvero, eh. E magari domani ve ne fa un'altra. E noi riferiamo e ti aiutiamo, e in caso di un amico non possiamo lasciarlo così, eh. Oh, che amici che ho, guardate, se avessi avuto le braccia tanto lunghe per potervi abbracciare in questo momento, guarda, mi sto commuovendo veramente, e grazie di esistere. Non lascia perdere le braccia, dammi la torta. Che vigliacco però, Andiamo al suo. Su che rulliamo? Ci andiamo? Yuhu! Dai bombo! Ma stamattina che fine hai fatto, Aldo? Ah, ti ha giudicato in lungo, in largo, e sono andato a fare anche un altro scarico lì in zona industriale. E tornavo per bombo cotta! Bombo per tornado, yuhu, nulla. Stavo consegnando, per quello che non potevo rispondere. mannaggia la Marina, cazzo, tutti, mani, me, tutti mi hanno risposto, mi, per anni di Cagliari, e chi stai cercando tu, qua non c'è bomba, io te passi un attimino, ripassi tu, i gatti zicchendo a te, questo fai una cosa, cambia canale, che no che sei a Sassari, vai, vai, vai, ci pitotto. Scusa, avanti. Ma l'hai sentito un attimo di quel sud? Stamattina quando pare lì verso Troncoreale c'erano tre macchine della stradale e li fermavano in salita e in discesa e uno di questi è stato fermato e stava facendo un viaggio, adesso non mi ricordo, da Porto Torse mi sembra verso Provaghe e stava là e tornando, mi pare che Oves e non lo so, forse era del materiale, stava viaggiando comunque, l'ho fermato. Si è salita anche in discesa, e dalla parte del sud, ma mi ha strampato di tutte le maniere, bestemmie, parolacce e quanto di più. Cappani positivo, qualcuno di cui io l'ho sentito, io addirittura ho sentito uno che quando l'hanno fermato ha aperto il baracchino e ha detto ma quanto sono fortunato oggi, Lisi, tre pattuglie della stradale, una dietro l'altra, l'avete sentito quello stamattina? Era troppo reale, e a quanto pare c'era anche la signorina poliziotta, e con l'ha detto, ma c'è sta pescando tutto, comunque ho detto questo qua dopo che l'hanno lasciato andare, stava dando le maledizioni, la prossima volta che passo ci dico su, guarda non te lo dico neanche cosa gli altri ti ha detto. Cappa, una mezza cosa me la sono presa anch'io lì in diretta, però effettivamente avevano ragione, cazzo, perché non puoi, cazzo, strampare le quaglie, tra parentesi, cazzo, di chi sta lavorando, cazzo, io passo lì 20 volte, cazzo, 20 volte, una volta mi puoi fermare, però gli altri 19 per farmi passare, perché oramai mi hai controllato. Allora, che ero lì andando verso la zona industriale di Muros, dove c'era Giri, a quello lì che ha detto che l'hanno fermata 5 volte, dice adesso se mi devo far fare un altro viaggio non ci torno più, ha mandato le valigie anche quello, 5 volte ragazzi mi hanno fermato, 5 volte, ma è mai possibile, ogni volta 25 minuti e mezz'ora. Adesso se qualora mi vado di là devo tornare indietro a fare un altro carico, non ci vado più, cazzo, 5 volte, e tutte le volte dice di nuovo dal capo, perché anche lì dice che ieri c'era una parte dall'altra, tutte 5 volte di nuovo sempre tutti i documenti e della patente, poi annotavo, dice che annotavano, questo l'ha raccontato lui, che tutte le volte li annotavano, e poi lo lasciavano andare via. Cappa di positivo, Pertà, ma succede, ti sto dicendo io la volta, ti ricordi la volta che ti avevo detto che mi hanno fermato 5 volte nel giro che ho fatto, la volta che avevo fatto il nuorese? Ma funziona così, addirittura quando mi hanno fermato qui, ti ricordi che ti avevo detto anche che rientrando mi avevano fermato insieme all'autista di tavola? Alla fine gli ho detto, ma ditemi una cosa, ma non vi fa il colore del camion, cioè, vedi voi che cazzo ti cresci di che cosa, cosa c'è, non vi fa genio il camion, il colore, cioè non è, cazzo, non è possibile. Vabbè, ma sento questi giorni, sento il camionistico che c'è un particolare accanimento verso questa zona. Anche tre pattuglie, sia ieri che ieri erano da Brescia e sia stamattina invece a Troncoreale, sempre tre pattuglie per volta. Ora stanno cercando qualcosa o c'è un certo accanimento, non lo so. Cappa di positivo, posso confermarti che quel qualcosa che stavano cercando l'hanno trovato, eh? E la l'hanno trovato vicino a Porto Torres e lo stavano cercando a Trunca Reale, e ti posso confermare che ce n'erano altre tre tra il bivio di Alghero e il bivio per la strada di Itiri, quindi erano tre e tre sei, e sia in andata che nel ritorno. Parlo del blu e Pierpappa. Papa di positivo, hanno trovato a lui del Marocco con un KG di roba interessante. No, a me quelli blu non mi fanno paura, a me fanno paura gli altri. Quegli altri con la fiamma mi fanno paura. Io sono me per tre bombole fuori ordinanza, diciamo, 1250 euro l'una. Capa, me l'avevi raccontata quella, e beh, i grigi non è che perdonino più di tanto, perché io ne ho beccato una l'altro giorno di pattuglia di grigi al bivio di Benetutti, e niente, c'è mancato poco che mi chiedesse di abbassare i pantaloni per controllarmi. Ma tutto sommato, no, sono furbi, ma so che furbo è loro, perché poi non erano tre, ma erano nove le bombole fuori posto. Comunque io le so tutti raggiare, e gli ha fatto figurare che alla fine, purtroppo tre, non potevo farle risultare diversamente. Però le altre sì, le ho fatte scappare. 1250 euro a bomba. Capa, ma guarda che state andando a lavorare lì, non è che state andando a rubare o state andando a mettere qualche bomba, come gliela mettono sotto il culo, come gli dico io molte volte, no? Quando si accaniscono e quando vedono che ad esempio che è tutto in ordine, no? Allora cominciano gira, rigira intorno a quel camion con i documenti in mano e controllano e ricontrollano, ma quello gliel'ho chiesto, ho detto guardi che me l'ha dato avuto appena due secondi fa in mano e l'ho rimesso a posto, ma lì allora glielo devo ridare quel documento lì. Alla fine poi, e sai che cosa succede? Che quando Giuseppe comincia, dopo che ti tengono mezz'ora o 40 minuti fermo lì, gli dico ascolti una cosa, ma lì presumibilmente ha famiglia, perché tanto te ne accorgi dalla fede che portano al dito, no? E talmente sono stupidi che ti rispondono anche di sì. Anche il sottoscritto risponde, sa cosa gli dico? Io, fatta padre di famiglia come lei, quando molte volte capita che, cioè molte volte, le poche volte che sono a casa e che ascolto il telegiornale, e sento o sentivo che qualcuno di voi lo facevano fuori in qualche maniera, io gli dico sempre, ma sa, fatta padre di famiglia prima, qualche lacrima di coso, di commozione, e sai, ti capita che ti caschi dagli occhi, Però sapendo adesso come siete fatti, sinceramente, proprio non me ne può fregare di meno. Cazzo, lo sai come si incazzano, eppure non ti possono fare niente. Capa, mi dilungo un attimino per spiegare una cosa, che poi... tra l'altro alle volte io mi sono fermato anche bene, però se il giorno volevo fare il bastardo, potevo fare il bastardo e tra l'altro mi avrebbero anche pagato bene, perché mi sarei fatto pagare bene, te lo giuro. So che ho voluto evitare, dai, per il modo come mi hanno fermato, che erano in torto, sarebbero stati in torto al 100%, proprio al 1000 per 1000. Se volevo il giorno io, con la scherzata come hanno fatto loro per entrare a fermarmi, che non ce n'era bisogno, bastava darmi soltanto col colpo di braccio, soffermi la paletta, e uno ci si ferma, e loro invece volevano fare gli staschiacci, no? Se io volevo in quella curva, invece di stringermi per farmi passare, allargavo soprattutto quello che era con la paletta fuori e con la testa fuori dal finestrino, usavo poi per rugascioni, lo buco che se ne è uscito. Mi sono pentito veramente di non averlo fatto dopo, però per me... motivato me stesso. Se la prossima volta mi si presentano così, con questi adirimenico, il culo ordinato a casa, lo senti, entra da occasione la macchina. Attenti un pezzo, le posso. Cappa di positivo, ti posso capire benissimo come. Però a me sai che cos'è che mi dà più fastidio? È che vanno a cercare il pelone nuovo e poveracci, no? A quelli che lavorano, intendo io. Però loro sanno benissimo dove andare a cercare, soltanto che dagli evasori veri e propri non ci vanno. A chi ritimini? Mi hai capito, Verba? Vabbè, adesso dico questo, poi facciamo gli altri, se no rimangono indietro. E io dico questo, che non c'è bisogno di fare gli strafottenti e queste cose di accanimento. Perché poi sembravano chissà che cosa, bomba, a me non me ne passava, mi ha detto come il termine, che non me ne passava la comparata in camera, che cosa c'è a fare il verbale, faccio il verbale io. Cazzo andrà, però che ci smagna pure io. Che sono tutto il giorno lavorando, non me ne frega niente, a te ne va, a te, per questo mi costa 1250 euro a poco, in fallo, ma no, non fermare, io, proprio come una disinvoltura che non me ne fregava niente. Però mi sarebbe piaciuto farvi sapere che se volevo io il giorno, almeno uno di loro, quello che era lì a quella parte lì, non sarebbe potuto entrare più in servizio, guarda, ma mi veniva proprio così bene, che era una bellezza, me ne sono pentito, troppo, ma solo per la strapotenza che avevano. Però come è tradito doppio volte, lo carimaccio si butta una volta solo. Cappa di positivo, alla grande, per dai. E niente, fai girare tu, Pierpa. Cappa di positivo, vai, Natalino. Figlia, dai, vi saluto che mi si sta chiudendo la serranda. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao, Natalino, ciao, buonanotte. Ci ascoltiamo alle prossime. Ciao, Natalino, ciao, buonanotte, alle prossime. Buonanotte alle prossimine. Allora, ciao Tattalino, buonanotte. Ma ora prendete da, stavo a te facendo un buon discorso, stavo ascoltando. Ciao Natali, ci sentiamo presto, dai. E buon 144 e alle prossime. E abbassa la serranda piano piano senza far rumore, per cortesia, eh? Grazie. Natalino, dice, mi si stanno abbassando le serrande. Infatti ho chiesto gentilmente, senza far rumore, per cortesia. E su che andiamo. E bambolo, e riprenditela appena appena, dai da bravo. Scappa. Già ho sentita quella storia là stamattina, adesso è poco erano incavolati. Già c'è, cioè non c'è, c'è poco lavoro, non c'è lavoro. Più li tieni così, stanno lavorando, va a rompere le scatole, non sta bene. Non sta veramente bene una cosa del genere. È come una volta che a Porto Torre, lì dopo il ponte, le vigili urbane hanno messo la macchinetta a 50 all'ora. Ha fottuto 15 macchine in battolini, tutte e quattro le infila all'altra perché scorte insieme dopo che caricano, no? 15 macchine in battolini, tutte e quattro a 55, 56, cioè di mese la puoi tarare a 50. Hanno fatto le cose. Ma quello è un altro casino che ho sentito anche sul giornale. Per carità, guarda, infatti molti si sono appellati, allora non è un cavale di un uomo bionico che sa fare. Infatti hanno dovuto restituire un sacco di soldi. Ma io dico questo, ma scusate, ma io ho... forse sarà la mia ignoranza che mi fa parlare così, ma da 50 a 56 che cosa? che cosa cambia? È inutile che lì la polizia municipale, che sono a Mazzadai in Inchibi, no? Compresi tra Sassari e Porto Torre, se si possono stringere la mano tutti quanti, no? A chi uno lo comprende e l'altro non comprende un cazzo. Io dico questo, ma da 50 a 56 cosa cambia? Perché invece non vanno a fare controlli lì verso Tava, verso i punti, chi passa lì a 120, 160 e nessuno vede niente? Giuseppe, non deve parlare così, perché anche tu sei di stato con la BM, passare così. E non perché c'è la cattiveria o quello o quell'altro, è che oggi purtroppo siamo tutti di fretta. Io oggi sono andato al Tempio e quando ero lì era 140 ed ero con un furgone. E beh, è per quello, cioè perché hanno fermato a te, devono fermare a tutti. Poi vedi noi quando ci capitiamo sotto per il limite di velocità, anche a lui la resa prima a lui. Da lui a reggermi la patente, da lui a reggermi il burgone, o un camion, e il camion. Stanno lavorando anche loro, capito? Non è che purtroppo loro lo fanno per mestiere. Pensa che a me una volta, cioè io dico questo qui, vabbè, mi ha mandato un ingegnere e mi ha detto vai carica questo, questo e quest'altro. Adesso l'ingegnere sapeva il totale del peso e ci ha mandato un deli a caricare, voleva caricare tutto il viaggio, voleva caricare 120 quintali perché era di quel materiale che c'è il polistirolo in mezzo e lui si credeva che non faceva peso, che era una cosa leggera. Quando gli ho detto fa la cortesia, siccome ho visto la pedana bella massiccia, gli ho detto fa la cortesia, mettila sul peso. Me l'ha messa sul peso e ogni pedana pesava 7 quintali. Ma se posso credere, già messo quintali. Quando sono arrivato nel cantiere la prima volta mi ha detto solo questo. Tu hai ingegnere. E beh, diamo sei, ha detto lo sarevo. Un autotreno ne vu. E mi dice, lei non è matematico. E gli ho detto, vabbè, non sarò matematico. Non è che al secondo viaggio mi ha fermato la stradale, mi ha tolto 3 punti dalla patente e mi ha fatto un verbale di, mi sembra, una roba di 200-350 euro, una cosa del genere. Quando sono ritornato in cantiere, ho pigliato e gli ho dato il verbale, a pagarsino naturalmente. Poi ho detto, e se ricordi che lei a me mi deve dare sempre 3 punti dalla patente. Sì, papà, però quelli non te li, lui non te li può restituire, Mario. Perché anche a me molte volte dicono, no, fai così, fai colà, e vai su, e vai su, e vai giù, fai questo, e fai quello. Non è che non è così, non è come dite voi, perché il verbale, se sono intorto, lo paga l'azienda, se sono intorto io, lo pago io, però i punti della patente non me li restituisce nessuno, caro Mario. E allora lì Giuseppe si punta, mi hai capito? Perché è inutile che io poi, che mi hanno tolto i 3 o i 5 punti della patente, mi metta giù in stabilimento a fare la voce grossa. No, no, assolutamente. Giuseppe la voce grossa la fa prima di partire, come ha fatto l'altro giorno. E infatti gli ho detto al nostro ragioniere, le chiavi nella barra sono attaccate. Vai! Se devi andare fuori portata di 60 quintali, Giuseppe non ci va, perché tanto il giorno che esci, che sei appena fuori, stai tranquillo, come è già successo, che ti fermano, Mario, perché tanto te lo leggono in faccia, mi hai capito? Finché fosse stata solo multa, ti porto il verbale e se lo pagano loro, no? Perché tanto sono il loro interesse e buttare materiali in più in un giorno. Però siccome adesso ci sono anche i punti della patente, ma Giuseppe, ma manco mezzo se ne ne gioca per loro, ma stiamo scherzando. E K, già lo so già che funziona così. Infatti io quando sono andato al tempio, con quanti quintali ti credi che ne sia venuto? Ne sono venuto quasi con 23 quintali messo sul camion. Non è che ne avevo uno o di quintali in più, ma di un lotto di un carico. È K di positivo. Però il giorno, cioè 23 quintali su Devi, a livello da aprirlo in due, mi Mario. Perché un Devi così io penso che possa caricare 6-7 quintali, non di più, se poi è camminato. Poi, non lo so, io ripeto, è sempre buon senso dell'autista essere un attimino responsabile, perché sapendo che la macchina carica quel tot lì, io gliene sto caricando due volte e mezzo sopra, sono a rischio mio e a rischio anche della gente che posso trovare per strada. Vedeva bombole ma vedeva anche legge. equipaggi sono tanti, mi dirà. E tu, quando ci chiedi, io te lo dimostro quando vuoi. Scegliamo la portatore, ci mettiamo, riempiamo di bomboloni da 25 e poi la portiamo al peso a vedere quanto è. Io già non so quanti 20 quintali, perché io quando nella barra che ho io carico una cassa di vetro intera, no? Dove viene fuori dalla fabbrica, varia dai 20 ai 22 quintali, ed è metà massiccia. Sì, io li carico su quella moto, li carico e porto a Sassari. Cosa vuol dire che massiccia è il treasino? No, già li porta, Giuseppe, soltanto che lo sai cosa è, che cambiavamo i giunti ogni due mesi. I giunti in gomma, quelli lì stai dicendo? I giunti elastici, alle volte anche meno, ma due mesi ci accampavano a quella maniera. Immaginate che noi all'epoca scendevamo tutti i giorni, con due persone dentro in cabina e più tutti avevano un viaggio di bomboloni e l'altro un viaggio di bombole piccole, miste. Immaginate, aggiungendo i carri, però i bomboloni sono che si arrivano a 21 quintali facevano. Cazzo, un bel carico comunque, cazzarola. Sì, un bel carico è, eppure ce la fa, solo che partono i giunti, spesso e volentieri, a frenare da sogni, non è che la città non è in acquista molto, comunque già cammina, diciamo, regolare, non è che subisce più di tanto, però cazzo giunti, un po' di tutto già, i molloni si sballano, infatti quella regina è tutta sballata. Cappa, e camminando cosa sembra? Bella seduta oppure bella ventosa? Non ti puoi permettere di sballare, si impegna. L'ho provata anch'io una volta, non un treasino così, ma una macchina più piccola di quella che ho adesso, che avevano caricato più del dovuto. Ed effettivamente di cosa di sbandare non te lo puoi permettere, se no ti ha caricato a corinaggio. Anzi, mi sono dimenticato. Questo anche, diciamo, fino, sempre una decina d'anni fa, portavamo le bombe a un ristorante distintivo, che sono più di 50 km, un carico intero di bomboloni. A Sintino, all'andare era un dilemma, carichi, ma non normalmente esagerare, perché poi la devi far riposare le discese, perché a quei tempi se ne a crepare, no? Quando la vuoi discesa. E allora lì devi giocare un po' di acceleratore, perché sennò sono cavoli. Ah, guarda, ti dico, era un viaggio, ci voleva più di un'ora andare, a tornare meno, ma ad andare ci voleva più di un'ora. Cappa, ci posso credere, cazzo, la conosco molto bene, quella strada lì, e poi con i motori a due tempi, cazzo, Dio mio caro, cazzo, se non li sai trattare quelli, cazzo, ti mollano, cazzo, in 448, cazzo, ci tiri certe ingrippate che, cazzo, fanno anche incorniciate. Vediamo un pochino il buon Gianni, quanto riesce a caricare lui sul suo, quante, due, tre assi, che cosa ha Gianni? Attenzione doppio room, molli il tasto della portante per cortesia, che lo dobbiamo preguntare appena. Gianni doppio room, si ascolti la velina che ti fa la chiamatina, dai, rispondi alla velina, cambia. Giuseppe Dormillo. No, sta facendo bolle con il naso, sta russando, dai. Giappa. Comunque già, io sempre inesperienza, perché non sapevo niente. E una volta mi fa l'ingegnere: signor Mario, vado da Capolino e mi porti 2 metri di sabbia. Io ho pigliato, l'ignorante, ho detto: va bene ingegnere, tutto a posto. Io vado da Capolino, 2 metri di sabbia, la vacca fine, 2 metri cubi, va bene, figa, mi fa il buono. Vado a caricare, pigliato, io sono uscito fuori, ma tutto tranquillo, come che fossi caricando 2 carrioli di sabbia, mi dava stessa cosa. Ma lui dal palista, 2 metri di sabbia e la vatta fine, grazie. Pigliato mi ha guardato, è stato un pochettino così. E ha detto: perché mi sta guardando così? Dice: sono un po' pesantini per questo mezzo, 2 litri. Ho detto: ma per curiosità, giusto curiosità sapere, cosa pesano, perché 2 metri cubi di sabbia? Dice: sono 32 quintali. Scusa Mario, Giuseppe. Sì, avanti, Pietà. Anzi, mi sa che abbiamo fatto una trambattina, però, perché mi sa che nel frattempo ci siamo dimenticati i capri 2. Cazzarola, hai veramente ragione, mi zega a cazzo. Ehi, ti sto ascoltando io. Ora, ecco, lo sto ascoltando, tranquilli, mi interrò anche ascoltare. Tranquilli, Pietà, senza offesa, io ascolto, mi piace molto ascoltare, un bel discorsetto. Niente, modulate che io ascolto. Gianni, scusami, guarda, Madonna Santa, mi proprio l'età che sta avanzando, ma proprio se non me l'aveva ricordato adesso Pierpaolo, ma credimi, di tutto cuore non... scusa dai Gianni, non è... proprio uscito di testa, dai. Niente scuro, Giuseppe, no, ripeti a ascoltare, sono discorsi che fa piacere anche ascoltare, tipo quella dei come si chiama, dei grigi, delle fermate, io ascolto, hai capito, piace ascoltare, Giuseppe, no, non mi preoccupate, e anche del carico, dei 60 quintali di Mario, usa gomma, l'altra del blu, no niente. Mi piace molto fare quello lì, che neanche ascoltare gli altri. Riprendi Mario. Gaffa, gaffa, Gianni. Oh, scusa anche da parte mia, perché io poc'anzi mi sono assentato per caricare e la verità, vi ascoltavo e non vi ascoltavo. E quando ho ripreso, non avendoti sentito in ruota, pensavo che avevi chiuso tutto qua. Comunque, niente, là, scusaci e riprenditela tu, là, almeno facciamo chiacchierare un po' a te. E cosa vi dico? No, mi ero affascinato dal discorso, perché anche mi faccio la risatina, per farlo molto comico. E mi faccio la risatina anche a Giuseppe, qualche volta butta la battutina su, no, forse... E più di una volta il discorso si fa alle tante, meglio ascoltare. Gianni purtroppo chiude, diciamo, le finestre ogni tanto, perché lo capisco benissimo, dato il lavoro che fa, capita, niente. Ma però il discorso mi piace, ripeti Giuseppe. E capa di positivo, dai Capri, e anche costruttivo, dai, il discorso che fai tu, perché è molto interessante anche il lavoro che fai tu, interessante e anche delicato, perché oltretutto col trasporto persone, Capri, non è che puoi stare lì a scherzarci tanto, e lì ci vogliono occhi aperti e attenzione soprattutto, o sbaglio? Di un zero più di report, ma per l'asilo il primo anno, perché hanno già scritto l'asilo, sono le mamme che vengono a turno, però anche quelli delle medie diciamo che sono grandi, però vogliono tutelati, il percorso è minimo e niente, ci vuole attenzione in tutte le cose, non solo lì ma in tutti i lavori, ritengo che ci voglia, hai capito, un po' di attenzione. Poi da lavoro a lavoro cambia, anche per Paolo fa un lavoro delicato e sono sempre messi pericolosi, quanto può stare da qui e ognuno ha diciamo la sua attenzione sul lavoro, ripeti per Paolo. Sì, che a me ci hanno messo almeno al mezzo nel nostro lavoro, siamo un pochettino sotto il mirino, anche non è da molto, un paio di anni fa mi hanno messo a processo ingiustamente perché la signora era stata avvisata più volte che c'era una caldaia che non era una caldaia, era un campo di concentramento. Nonostante l'avessero fatto lottare più volte, si è scoppiata e ha causato molti danni, per fortuna non alle persone. E questa qua, in pratica, ha accusato a noi di aver rimontato le bombole male, mentre invece era il suo piano di impianto che, sai come ci sono dei bassoni che gli dici, però che questa cosa non va bene, questa cosa deve chiamare l'idraulico e far mettere le cose a posto qua perché sta funzionando male, sta funzionando male. E sono di quelli che tira campana, no? Piuttosto che spendere 50 euro per mettere a posto una cosa, succede quel che succede, poi le colpe sono le altre. Io mi ha fatto andare sotto processo e mangiano vita io però, E purtroppo più nel basso si trovano, hai capito? Sono quelle persone che hanno una cosa che deve durare finché uno canta, e così si vogliono guardare dei controlli, la prudenza non è mai troppo, adesso ma per tante cose per fare io credo anche quella roba che è caduta quel pezzo di roccia lì che mettendo il freno, ma poi e non si doveva fare un sopralluogo lì, sapendo che la cementeria mette qua le mine lì, se senz'altro sarà quello lì, e in tutte le cose, delle cose che ti sembrano più, diciamo, semplici si crea, diciamo, quello che non deve succedere. E molte volte va bene, molte volte anche ci scappa il morto. Tutto lì, riprendi Mario. Cappagliappa, è tutto pericoloso, perché anche trasportare, vedi, è pericoloso. Adesso piglia quell'articolato che si è rovesciato lì prima di arrivare al vivere di Alitalia. E mai si muore, si rompe un qualcosa, o succede un qualcosa, o si scoppia una gomma, o si slaccia una fune, tipo quello di Urbia, gli si è strappato la fascia e ne è caduto un rotolo del ferro sopra la macchina. E sono morti in due, quell'altro gli si è sganciato il rimorchio, perlomeno hanno detto che si è rotta la rana e niente, si è rovesciato e per fortuna che nell'altro lato della corsia non c'era nessuno, se no li avrebbe fatti muovi. Niente, purtroppo molte volte le disgrazie succedono, però il più delle volte siamo noi, o perché siamo incoscienti di quello che stiamo facendo, o quanto per no, perché non c'è successo mai niente, alcune volte si tende a strafare, tutto lì. Quello lì è, ma perché molte volte dicono ci sono tanti anni, non è capitato mai niente, e poi quando vedo te l'aspetti capita, e poi se avremmo provveduto, ci avevo fatto questo, ci avevo fatto l'altro, non era successo, però sempre le cose è meglio prevenirle da prima, una cosa che hai capito, può capitare da un momento all'altro, come Pierpaolo che ha avvertito questa signora niente e ha fatto le chiedi a mercante, finché poi hai capito, succede, ma e ti mette molte volte anche nei guai di affrontare certe situazioni, anche quando le va a bene, come ha detto lui, e niente, però succede poi situazioni che ci va di mezzo la giustizia e sono cose che non finiscono subito molte volte. Mi prendi Giuseppe? Cappa Capredo, le tue sono parole sante come, come sono quelle di Mario, perché delle volte manco te l'aspetti. Può essere una gomma, può essere una fascia difettosa, può essere tutto quello che, può essere anche come dice giustamente anche Pierpaolo, può essere anche una caldaia difettosa che proprio tu non ne hai assolutamente colpa di quello che sta per succedere, che purtroppo sei sempre in mezzo ai casini, perché ti sta così come siamo noi, in mezzo alla strada, in mezzo ai colpi, anche il discorso di Pierpaolo, lui sta in mezzo alla strada e anche in mezzo alle manutenzioni, perché volere volare, quando gli chiedono di piazzare una di quelle bombole, per forza di cosa, perché quando arrivi su ti dicono, questa è la bombola vecchia, mi devi piazzare quella nuova. E lì è ancora più difficile il discorso, mi hai capito? Perché lì è proprio, già stai trasportando materiale pericoloso, e qui devi avere anche un paio di palle non indifferenti, perché la devi già trasportare, e stiamo già parlando di materiale di una certa rilevanza, perché con il gas non si scherza. In più glielo devi anche posare in opera, cioè la bombola dentro casa, e gliela devi dare in maniera che una volta che è piazzata non deve perdere manco un alito di gas, e lì già si vede la professionalità della gente, perché già sei in mezzo alla strada, in più devi avere anche contatto con il cliente, mi hai capito Capri quello che sto dicendo? E purtroppo funziona così, per noi è così, dai, riprenditela Pierpa. Sì, no, per noi comunque c'è la... Sì, ti mettono in casini perché naturalmente avevano queste cose, ti portano a processo, non tu colpa non ne hai, però da noi, infatti come è stata interpretata anche la legge dal pubblico ministero, che tu pensi che io sono stato assolto dal pubblico ministero direttamente, perché infatti non costituiva reato, perché io dal momento che ti porto il prodotto a casa, io te la installo, al momento per me funziona, quando me ne vado funziona, e con tutto ciò che avviene dopo che io me ne vado, non sono più un interesse mio, e quindi non esiste il reato già da lì, ma poi il reato si è travolto, si è travoltato nella persona stessa, perché poi addirittura non gli hanno pagato neanche i danni all'assicurazione, lavoro perché hanno chiesto altri danni, poi sono assicurato, non è stati, sono stati pagati neanche i danni, perché appunto è stata messa una sentenza che si sarebbe proceduto che la padrona avrebbe dovuto pagare i danni dello stabile, perché era in curia di lì, che noi dovevamo procedere un'altra cosa. Comunque voglio dire questo, che purtroppo le leggi italiane sono così, no? Anche se ne esistono alcune leggi dove ti tirano fuori che non hai più responsabilità, però ti ci mettono lo stesso in mezzo, lo stesso, capito? Cioè c'è tutto un giro che non va bene, perché io dal momento che ti avviso, dal momento che per me funziona bene, e dal momento che ti avviso invece che ci sono delle funzionalità che non vanno bene, e lì finisce il mio compito, e invece la gente non capisce. Quando succedono le cose poi ti tirano in mezzo, senza che tu hai fatto niente. Però questo avviene anche per chi è in strada, come me, lo stesso chi è in strada, tu le volte non hai colpa di questo, hai colpa di quell'altro, può succedere di tutto, però ti tirano dentro lo stesso, capito? E ti fanno passare dei casini. Infatti, per farsi quello, perché tu dici diciamo fuoriuscirà la bombola. Però poi quando l'attacchi non sai al di là cosa c'è delle tubazioni, di queste cose, quelle sono quelle che poi quando succede i vigili del fuoco faranno, diciamo, sopra l'uovo una perizia di queste cose, perché io ti sto portando una bombola, la sto collegando, funziona bene, dopo che chiudo la porta può anche, diciamo, anche succedere quello che vedo che è successo, e io mi ritengo non responsabile, quello lì è, sempre Giuseppe. Cappa, purtroppo funziona così, Capri. Il discorso è che per il lavoro che fa Pierpaolo, io dico ci vorrebbe secondo me anche una tutela maggiore, perché essendo materiali pericolosi, io una volta che ti sistemo tutto l'ambaradan dentro casa, ci dovrebbe essere non solo dello scontrino, come consegnano loro il materiale, no? Una volta che vai via da casa e mi hai sistemato la bombola, ok, però ci dovrebbe essere anche, a seguito dello scontrino, anche una dichiarazione da far firmare al cliente che il lavoro è stato eseguito perfettamente, punto e basta. Perché se io che ti consegno la bombola ti dico guardi signora che ho riscontrato una piccola lesione al tubo, no? Che parte dalla bombola alla cucina, e quella a me mi risponde sì, ma per il momento a me può andare bene così, ok? Mi state capendo quello che sto dicendo, no? Ecco, io ti piazzo la bombola, faccio tutto quello che devo fare, magari dopo una settimana lì succede il patatracche, la prima cosa che vanno a cercare cazzo è quello che gli ha portato la bombola a casa, mi capri tu, mi stai seguendo? Così è Giuseppe, però diciamo anche noi Monte Giuseppe, non odiamo però ogni paio d'anni il tubo dello scambio, e molte volte ci riscontra qualche cosa che c'è qualcosa che non sa, il tubo vecchio, qualche cosa, questo paolo, la tavola della cucina. Qualche volta mia moglie c'è punta di gas, non sapete che sono le fascette o quante che le arrivano, perché noi la popola prendiamo qui, non c'è il venditore, a Carceghe che ce la compriamo noi. Beh, molte volte che non può venire lui perché fa altre attività, e ce la piantiamo noi anche Giuseppe, quindi non so fino a quanto la cosa può essere, adesso infatti chiedo a Pierpaolo, può essere che vada bene che io da ignorante prendo la bombola e me la piazzo io per la soppiazzare, ma come si chiama della legge Pierpa, su quanto siamo tutelati in questo campo? Siete da arresto immediato, perché lei, io, Giuseppe, non siamo autorizzati a trasportare bombole. Se per caso ti ferma la polizia e ti dice apri il cofano per un controllo comune e ti trova la bombola in macchina, verbalizzo dei vasi, perché il suo mezzo non è idoneo a portare la bombola. I bombolai sono autorizzati e hanno tanto di cartello dietro per il trasporto e via dicendo. Noi non siamo autorizzati prima di tutto, secondariamente non le possiamo portare e in macchina non siamo muniti manco di sensore, capito? Siamo da arresto perché la bombola personalmente in macchina nostra non la possiamo portare. Parole sante, come dice Giuseppe, ma però molte volte si finisce, lui fa altre attività, perché c'hanno pericoli, qui non so cosa tutto, e molte volte la bombola è finita, lui non può venire perché è in campagna, qui là, e allora fai tu e la prendi, ma non ci va solo Gianni, no? Ci va Tizio, Caio Sempronio, da sempre quando portano la porta di macchina, come stai dicendo tu, non ci abbiamo il dintorno nella macchina. abbiamo il cartello Merci Pericolose, come invece il bombolaio ce l'ha nella bomba appeso, e guai se non la fece, che si facciano anche delle cose, come stai dicendo, che per tre popoli e per Polo gli hanno fatto un verbale da capogiro. E niente, e proprio non siamo autorizzati, noi siamo rischiando proprio, noi siamo per il tragitto, è minimo lì, ma molte volte, come stai dicendo, che dicono il demonio fa un peso, ma non è così, due anni a fare, non la fanno vedere di contra, non c'è modo. Bello, anche di Piazza Brantopola, noi non siamo tutelati così. No, non siete tutelati, no, perché come diceva appunto Mario, se dipende da chi trovi non ti può fare anche niente, però se vanno per la legge appunto non si può trasportare. Perché tu pensa che hai il bombone in macchina, per quello della macchina è omologato, è sul repetto. Però, per dirti tu, per esempio, per fare il lavoro che c'hai il cap, così è. E c'ho il cap, c'ho quello, ma è per partecipare alle ASE, c'ho anche la licenza nazionale e internazionale di autotrasporto passeggini. Hai capito? Tutte quante cose, poi ci avete una roba simile al capo, poi ci avete la DR, così è. No, allora, la DR per trasporto fino a 7 quintali non esiste. Cioè, puoi trasportare fino a 7 quintali prodotti di questo genere esplosivi fino a 7 quintali. No, 7 quintali e mezzo, anzi. Comunque, per attaccarla, solo per attaccarla, noi abbiamo conseguito il patentino prefettizio, che sarebbe il capo di abilitazione professionale per attaccare la bomba. Senza di quello, sei fuori regola. Ma certo, per fare tutte queste cose sono giuste, perché io ho assistito anche a Porto Torre, se venivano i vigili del fuoco, poi incendiavano la tombola, facevano le trombe di un antincendio, di queste cose, capito? Una simulazione con la bomba incendiata, e che andavo, io ho assistito a queste cose perché alla tutta gas quando non li presa ci abbiamo lavorato 2 anni e facciamo di queste prove, tutte quante le cose, e purtroppo come io ci ho il capo poi da sotto passeggeri, tu c'hai questa roba per la tua attività, ed è giusto, però tante volte noi siamo anche ignoranti, ma sono a due passi la carico, compri quello che non ti dice nulla, compri l'altro, hai capito, e ti fa il verbale di quelli che stavo facendo poco fa. E poi trovi una persona anche inesperta che va, la prende, se la piazza lui in casa e ne esplode tutto, anche quello c'è, riprendi Giuseppe. Cappa Gianni, io quello che dico è solo una cosa, ma ve lo dico proprio con molta tranquillità. Secondo me dovrebbero essere già i depositi dove noi, tra parentesi, andiamo a prendere quelle bombole lì, a non dovercele dare. Tutto qui. No, Giuseppe, no. È come l'armiere. Io ti vendo l'arma, mi fai vedere un porto d'arma, in questo caso tu mi fai vedere i soldi, paghi e io te la do. Dall'armiere tu vai, compri un'arma, mi fai vedere il porto d'arma e te la dà. Poi, se tu vai al tirassegno all'armiere, non gliene frega niente, se vai a ammazzare una persona non gliene frega niente lo stesso. Perfettamente d'accordo con te, non fa una piega al tuo discorso, perché effettivamente funziona così. Però la cosa che farà brividire è quanta gente inesperta va a prendere la bombola così di contrabbando e se la piazza senza sapere se la guarnizione che sta mettendo è buona, se il se il tubo che sta mettendo è ancora idoneo, se non è, se non è, corroso dal, dal gas, cioè tante di quelle cose mi ci sono che ma io cosa dirvi, non le avrei date comunque così di contraballo, dai. No, non so il contraballo, sono la vendita è ammessa, capito, tu la compri e poi che non la puoi trasportare e che non la puoi più montare, che deve essere montata da personale qualificato e per le responsabilità civili e tutto, sono un altro conto quello, e tu puoi comprare tutto quello che vuoi, poi se non la puoi trasportare saranno le altre leggi a decidere, però la vendita è ammessa, ti assicuro che io ti vendo, ti vedo la bomba tranquillamente. Comunque la volevo concludere così, perché a Gianni per dirgli Roma, no? Noi quelli con la fiamma ci abbiamo molti clienti che vengono proprio a prendersi a loro, che abitano in campagna, che abitano a Filighito, che abitano qua, che abitano a proprio loro, allora ci avevano appena tranquillamente Gianni. Comunque io devo chiudere perché qua mi stanno torturando che devo chiudere perché devo dormire e la mia voce si sente troppo, è paritosa al massimo di trabocca, sì, ma a volte però non riesce a non parlare. Ti devo salutare, dai, perché mi spiace bene il discorso adesso, però mi fanno cenno che ora di finirla. Va bene, dai, vi saluto tutti con la buonanotte, un buon lavoro per domani, ci ascoltiamo tutte le prossime, dai. Buonanotte a tutti. Ok, ciao Pierpaoli, prendo io. Ti saluto, buon trabacco per domani, un buon tutto, speriamo di vederci ancora domani sera, però non è che anche la fine. Ok, anche io ne approfitto per salutare, perché non vedo Pierpaoli, allora è a riguardo. Salta e direi domani anch'io mi alzo e devo mandare il ragazzo a scuola e tutte queste belle cose, quindi la sveglia diciamo sono a presto. E rimetto il punto a Giuseppe, rimetto, ascolto il finalini e poi chiudo, vado Giuseppe. K di positivo, dai. E buon 144 a Pierpaolo e anche a te Capri 2 e ci ascoltiamo sicuramente alle prossime, dai, e vi auguro un buon inizio di giornata per domani, un buon lavoro, dai, che sia una giornata serena per tutti visto che ci stiamo avvicinando al fine settimana, grazie a Dio domani è venerdì e cominciamo già a sentire un pochino di coso, di, come dire, di rilassatezza nell'aria, dai. E niente, vi seguo anch'io perché anche per me, visto che sono subito le 11:30, e non è presto, dai, è tardi anche per me, dai. E niente, 144 anche per Giuseppe e vi ripasso immediatamente Mario. Ciao Capri2, buonanotte, buon tutto, ce la riscontriamo le prossime. Ciao Vela, sogni d'oro, non ti incavolare mai. Niente, buon 144 e ci risentiamo le migliori. Ciao Giuseppe, domani se sei in giro da presto, ma non credo, visto che hai chiuso così tardi, non credo che ci sarai alle 5 del mattino, va. KK, buonanotte, buon QRT, buon 144, ce la risentiamo alle prossime, ciao ciao. Vi saluto anch'io, buonanotte a tutti, buon 144 a tutti, me ne passo pure io 144, ciao ciao, buonanotte. Ciao Antu, buonanotte anche a te. Sogni d'oro, buona giornata per domani, là, ce la riascoltiamo tutte le prossime. Ciao ciao, e anche io chiudo. Ah, facciamo Antonio 144 e buon inizio di giornata per domani. Dai, ce l'ascoltiamo strada facendo. Ciao bambolo. Ciao, buonanotte, attenzione. Ciao, ci sentiamo domani nel crocifine. Ciao.